No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... Cioè, sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Con un carro armato me ne vado in giro per la città. Mi rivolge la parola un matto che non sa niente, non sa niente però. I numeri che dà di gioco è l'unica occasione che ho. Non lo so, che ne so, non il sistema, non lo so. C'è un signore che si chiama Orini, è agli arresti domiciliari, caro Parenzo, per questa vicenda dei secessionisti, dei separatisti veneti, che a me pare francamente una burletta, una buffonata, sempre detto con il massimo rispetto della magistratura inquirente e giudicante. Un signore, dicevo, che si chiama Orini, che dice dagli arresti domiciliari che l'Italia deve essere polverizzata. No. Sì. L'indipendenza, tutta l'Italia dovrebbe essere polverizzata. L'indipendenza. Cannonate. No, ma che cannonate, dai. Se tutti i comuni, tutte le regioni fossero indipendenti, sarebbero tutti più contenti, mi creda, guardi. Se uno dice polverizzata, non è che deve essere messo in galera, eh? Attenzione, altrimenti avremo migliaia di persone in galera. Però in questi questo, anni. Questo amico Orini già è in una situazione di domiciliari. Se ne stesse, come direbbe Di Biet, e stesse un po' zitte, no? Salvini, ho fionda e coltellino, mi autodenuncio. Io qui ho già un ospite. Ma no, dai. No, una persona che devi conoscere. No, io difendo la libertà di opinione. La Lega è non violenta, noi è vent'anni che ci battiamo per la non violenza. Un carro armato, diciamo. Beh, guardi, io mi autodenuncio, io in cantina ho una fionda e il coltellino svizzero di quando facevo il Boy Scout e sono indipendentista, quindi se qualche magistrato vuole perseguirmi. Certo, poi qualcuno nelle intercettazioni diceva altro che salame, carichiamo la dinamite, politica inutile, facciamo noi la storia, si parlava di prendere i fucili, se c'è da prendere il fucile io lo prendo, però dai su. Beh, come dai su? Dai su, siamo alla comica, dai. Cercherò uno spazio libero da occupare, signorina ci lasci passare. A proposito, Casarini contro Salvini. Senti, te lo ricordi Luca Casarini, quello dei, come no, dei No Global? È tutta bianca, il leader delle tutte bianche. Oggi candidato per l'altra Europa di Tsipras, o come diavolo si chiama. Tsipras. Adesso è tutto, no? Va nelle trasmissioni, tutto... No, tu vestito bene. No, che vestito bene? Beh. Rimane sempre un combattente. Ma quale combattente? Senti. Sentirsi dare del razzista da uno dei centri sociali mi riempie d'orgoglio. L'immigrazione clandestina è un reato. Sì. Vergognati. È un reato in Francia, in Germania. È vergognati un reato. Tutti i morti che avete che fatto sul Mediterraneo, i morti che avete causato nel Mediterraneo, gente che avete rispedito, bambini, donne, morti nel Mediterraneo. Questa non è l'Europa, questa non è l'Europa. L'Europa è un'Europa di pace, Europa di cultura nuova, di indipendenza da questo sociali, punto di vista. No, torna nei centri voi, sociali. Voi volete i carabinieri, Ancora Casarini contro Salvini. Wow. Salvini parla sempre come se fosse all'opposizione. Adesso ci ha citato la cosa degli ospedali veneti. In sì. Lombardia loro governano, loro sono loro che governano in Lombardia. Lo chieda a Maroni, perché in Lombardia appunto non funziona come il Veneto. Chiediamo direttamente a Salvini. Come dovrebbe scusi, e finisco. Come sì. dovrebbe chiedere, invece di dire Roma ladrona, quando c'è andato lui a Roma hanno rubato di tutto, questa è la verità, non che non vogliono dire dal figlio di Boss. Beh, è vero che un po' di furtarelli la Lega li ha fatti, di furti. Parenzo, chi c'hai là? Non ho capito. Allora, guarda, buonasera da Montecchio Maggiore, provincia di Vicenza. Sì, chi se ne frega. Questo collegamento è reso possibile in questo modo splendido sì. da uno dei protagonisti anche di questa attualità politica del momento. Chi è? Vediamo, dai. Il signor Dario. E chi è? Chi è Dario? Il signor Dario è un funzionamento, un signor, posso dire un signore qualunque, no? Certo. No, è un autorevole, è come dire, uno del comune. Te lo passo perché... No, non mi passare nessuno. Sì, salutarti, aspetta, no, un attimo, attacca il collegamento. Sì, buonasera. Dario, chi è lei? Buonasera, come sta? Tutto bene? Bene, lei chi è, scusi? Ma io sono un funzionario, a dire il vero, mi hanno chiesto, lei è un indipendentista? Io sono un dipendente, ho detto, attualmente, perché sono qua per servizio, per lavoro. Ma per servizio a che fare? Che fa là? Per il comune di Montecchio. E che fa ancora lì alle 18.39? Perché c'è bisogno di allestire tutti i servizi qua per questa serata e quindi siamo sempre qua. Ma lei è un patriota veneto, si sente un po' indipendentista? No, diciamo che sentiamo un po' questa tradizione, sì, ma non in modo particolare. Cioè lei vuole restare nell'Italia oppure se ne fotte? Diciamo che restando con l'Italia ci sono molti molti problemi che tocchiamo con mano. Vabbè, lei è andato là a firmare uno di questi referendum via internet oppure ai cosi, mi dica la verità. Sì, ci sono andato. E ha firmato a favore del referendum? Sì, assolutamente sì. Anche perché così si dà la possibilità alla gente di esprimersi e poi si farà una valutazione politica su questo. Vabbè, volete che i soldi rimangano lì da voi, su? Non sarebbe male, perché finora li abbiamo visti sempre andare via e tornare molto pochi. Bene, grazie. Prego. A lei, salve. Borghezio ragazzi, sbrocca, stai zitto. Borghezio sbrocca. Ah, visto che bello. E il popolo, quando gli rompono i coglioni, il popolo tira fuori quello che deve tirar fuori. Il popolo non si limita a votare quando gli rompono i coglioni. E qui ho l'impressione, detto con molta calma, con molta riflessione, che ce le hanno rotte in maniera immensa, che in Veneto hanno pestato i coglioni al popolo veneto. Cercherò uno spazio libero da occupare. Questo è dedicato a Mimmo Locasciulli, poi vi dirò perché, al signor Mimmo Locasciulli. Poi vi spiegherò perché, cantante, abbastanza noto. Poi ve lo spiegherò, ancora uno sbrocco di Borghezio. Beh, io dico che quando nel mondo la canaglia impera, la casa dell'indipendentista è la galera. Sono invidioso di non essere in galera con loro e andrò a trovarli al più presto, perché questi sono cittadini onesti e per bene. Non sono altrettanto certo di coloro che li hanno mandati in galera. Loro sono per bene, loro sono onesti, loro sono coraggiosi, loro sono gente con le palle, a differenza di quelli che dietro una scrivania pretendono di mettere il bavaglio a chi parla di libertà. È con noi Mauro Corona, buonasera! Buonasera a tutti! Come andiamo, caro Corona, rifugiato lì nei monti? Sì, ma sono informato di quel che succede. Ah, informato, sì! Una radiolina ce l'ho. La radiolina, importante che abbia la radiolina, caro Corona. Sì, anche i giornali. Anche i giornali. Parenzo? Solo che qui arrivano il giorno dopo. Grande uomo! Omaggia Corona, cerca di omaggiare Corona. E non prenderlo per il culo perché vuole, no. Magari, no, perché pensa... Sarà difficile prendermi per il culo, ragazzacci. Grande uomo del nord, Corona. Senti non cominciamo a fare, io sono un uomo italiano. Tu pensi che ancora possa esistere l'Italia unita? Per me sì. Quello che dico, lo dico come una mia idea, una mia convinzione. Per cui questi indipendentisti a te ti fanno un baffo? Nel senso che non mi interessa la loro presa di posizione, la loro battaglia. Ma che sono secondo te? Ma quelli del carro armato, dice. Sì, certo. Ma io mi esprimo in questo modo: se hanno voluto fare una bravata, sono un po' fessi, perché quella bravata lì può costargli 10, 12, 15 anni di galera. Se invece fanno sul serio, come pare da intercettazioni, sono doppiamente fessi, perché sanno che erano tenuti d'occhio, intercettati, scrutati, indagati, quindi veramente mi cadono le braccia. Poi che cosa cioè, fanno? Cioè parlare al telefono così, dici tu? Ma chiaramente, ma neanch'io che sono un povero diavolo dico delle cose al telefono, cioè? Capite? Perché posso essere intercettato, chi ha detto che non lo sia? Ma chi ha intercettato Corona? Perché dovrebbero intercettare te? Ma Mauro, perché su? Corona ormai fa il pallaccio pubblico e può darsi che gli scappi qualche frase che, interessante da essere intercettato. Vabbè, ma tu di che parli? Lavoro da incarcerare o no questi? Ma non ho capito, aspetta un attimo, tu di che parli al telefono, scusami? Io non parlo di niente, ma per esempio, non lo so, ti può scappare, non so, parli con un amico, ma quello là gli spacco il culo, ecco, magari, oppure dici, ah, posso morire tal dei tali, ma lo dici magari perché, come si usa intercalare, e invece la legge non va a vedere perché lo hai detto, realizza che lo hai detto, si attiene ai fatti e alle voci, e quindi io parlo di quello che mi capita, ma tutto non... perseguibilmente, cioè cerchi di depistare un po' le forze dell'ordine. Cerco di depistare, non con frasi cifrate, chiaramente. E come, scusi, in che modo? Parlando di che? Ma ad esempio lei provi a tirarmi dentro su un discorso politico. No, mai, dici tu, mai. Capire, io lo schivo, invece che dire una cosa dico un'altra. Salto di palo in frasca. Se lei mi chiede cosa ne pensa di Napolitano, Napolitano, io stimo i napoletani, altro che se li stimo, ne vedi come ma io non ho capito, ma davvero lo stimi Napolitano o no? No, io ho rispetto del Presidente della Repubblica. La stima è un'altra cosa, la stima è come l'amore, è una cosa profonda. Vorrei venisse qui a carezzarci la pelle, il pelo bagnato dal Vajont di ancora 50 anni fa, non è mai venuto. Perché non è mai venuto al Vajont? Allora tu ce l'hai questa cosa qui? Sì, ce l'ho, perché è andato a Porzus. È andato a rendere doverosissimo omaggio ai morti del terremoto del Friuli, è andato a Lampedusa. Però non è mai venuto lì. Ne ha fatti fuori 2000, perché non è mai venuto qui a Erto? Chi a farci il pelo bagnato ancora? Cosa ha contro di noi? Ah, lo Stato. Sono morti anche qui 2000 o sono morti di Serie A e che è Serie B? Prima o poi verrà Napolitano. Ma io vorrei che venisse prima che muoia, perché io ho 64 anni, non so se quanto vivo. Lui forse vive molto, io no. Ma prima che muoia chi? Prima che muori tu o prima che muori lui? Prima che muoia io. Lui ha lunga vita al nostro presidente. Ecco. Insomma, secondo te questi indipendentisti alla fine sono dei fessi, diciamo la verità, sono dei... No, aspetta, sicuramente c'è anche gente in gamba, magari anche con tre lauree. Il loro comportamento è da fessi. Perché ci hanno fatto la spacconata, così la goliardata, sono doppiamente fessi perché... rischiano 10 anni di galera se li va bene. Se invece facevano sul serio e raffafonati così, e veramente fanno ridere. E la Lega? A te piace la Lega? No. Ma guardate, alcune cose della Lega, alcune cose mi piacciono anche, devo essere sincero, non certo dividere l'Italia, abbandonare l'euro, ma alcune cose come il federalismo delle leggi però, che vanno fatte da quelli sul posto, però, perché se lei sa qui per fare la tettoia della legna, che una volta si faceva la tettoia e basta, per fare una tettoia 3.000 euro il progettino, poi lo devi inoltrare, deve passare la commissione edilizia, commissione sismica, lo psicologo, il vaterista, che ci vanno 5-6 anni a farti la tettoia. Ma quella è la burocrazia italiana. Allora quella va, quella, ma non è che la Lega l'ha cambiata, non è che l'ha cambiata. Sono leghista. Parenzo, dove diavolo sei? Sono qui, ma hai detto di stare tranquillo, sto tranquillo io. No, parla però, se ti dico di parlare, parla adesso. Ma no, fai? Io non è che parlo a comando, parlo se ho delle robe intelligenti da dire. Ad esempio, ti avevo passato il signor Dario, che è una persona che esprime, come dire, no, il senso comune di queste terre. Perché ti ha dato anche dei concetti interessanti che potevi riprendere. Vabbè, non c'è niente da dire, va, la traffico. La paura, lo sbarrimento per il futuro. Traffico, va, non c'è niente da dire. Oh, Pixie, Dixie, Fixie, che stai volando sulla mia mano. Pixie, Dixie, Fixie, se vuoi posarti fallo piano piano. Pixie, Dixie, Fixie, per ogni spina che si ficca nel cuore. Regaliamo qualche denaro della SIAE al signor Locasciulli, Mimmo Locasciulli, il quale scrive su Facebook, caro Parenzo: io non mi toccare Locasciulli perché è uno dei miei cantanti preferiti, questa canzone è una delle mie preferite. Però aspetta, ieri sera mi è capitato di imbattermi nella trasmissione radiofonica La Zanzara, condotta su Radio 24 da un tale, non saprei proprio come definirlo, di nome Giuseppe Cruciani. Non è la prima volta che mi capita di imbattermi in questo programma, dato che a quell'ora sono spesso in macchina. Mi sono contrariato spesso per la maleducazione che pervade tutta la trasmissione, per lo stile scurrile, per il linguaggio da caserma che lui e molti dei suoi opinionisti o semplici intervenuti che siano disinvoltamente adottano. Forse per vincere una sorta di complesso repressivo che hanno sofferto, no, le assicuro, caro Locasciulli, che non è nessun tipo di complesso repressivo. Condendo i loro interventi con l'ostentazione massima del più bieco cattivo gusto. Ieri sera invece ho provato un senso di vero disgusto. Il conduttore ha impostato gran parte della sua trasmissione sulla vicenda dei 24 secessionisti arrestati in Veneto, mettendo alla berlina, spalleggiato dal noto Mario Borghezio, l'opinione giuridica non certo benevola espressa dal giudice Papalia, e condendo i suoi interventi con una pericolosa assolutoria indulgenza nei confronti degli arrestati. Che crimine che ho commesso! Che crimine a dire che questa inchiesta e queste accuse mi parano una buffonata, caro Locasciulli! Che crimine! Fino a prova contraria, dice il famoso giurista Locasciulli, la progettazione di azioni armate è un reato, come lo è il possesso di armi. Questi conduttori trovano la loro realizzazione professionale nell'insulto, nello sberleffo, nell'oltraggio, nell'atteggiamento trasgressivo, a volte anche eversivo. Ad ogni costo, il giornalismo è ben altra cosa. Fix, se vuoi posarti fallo piano. Se non siamo al Medioevo, siamo certamente nel Far West, in cui la regola viene interpretata e vissuta in chiave individuale. Ma questo, ma chi gliel'ha detta queste cose? È impazzito? Per aver ascoltato la radio gli è venuta in mente tutta questa filosofia? A beneficio del sovvertimento dell'ordine etico e del senso morale. Ma questo purtroppo sembra essere oggi il mondo che ci circonda. Ma io lo devo anche ringraziare, perché se la Zanzara gli ha ispirato tutte queste cazzate, cioè tutte queste, no, tutti questi pensieri aulici su come va il mondo, evidentemente abbiamo anche questa funzione. Allora, caro Corona, ma ecco, il suo presidente si chiama come, il presidente della sua regione? La Serracchiani. La ora. Serracchiani, ma non è un po' troppo a Roma la signora Serracchiani? Adesso. Che dice lei? Beh, uno si fa eleggere mica per stare sui monti pieni di neve, si fa eleggere per andare a Roma. Adesso vediamo, l'aspettiamo, deve fare delle cose qui sulla montagna. No, no? Ma al di là della montagna, è continuamente alla ricerca, e li ha ottenuti anche, di incarichi all'interno del Partito Democratico. Mi sembra che no, abbia altre mire, non quelle di amministrare la regione, o sbaglio? Comincia a sembrare anche a me. Comunque l'aspettiamo al varco, la sappiamo rintracciare, abbiamo il numero di telefono, gli diciamo: ehi, quello che hai promesso risulta o no? Comunque perché un po' alla troppo, fine deve render conto. Un po' troppo a Roma comunque, è un po' troppo a Roma, sì. Come va, donne? Corona? Com'è la situazione? Ma dai, ormai donne va male. Perché? Perché l'età, una certa età è sempre un'età incerta. Beh, certo, poi con quell'aspetto che c'è, con quei capelli. Ma certo, ma non solo quello, è che anche gli aiutini ti provocano assuefazione, per cui prima uno, poi 30, 40 e costano tanto, insomma, ho dovuto smettere. Ma perché tu senza aiutini non riesci? No, io no, ma neanche a 18 anni. Beh, cioè, sempre con gli aiutini? Sempre con gli aiutini. Ma poi scusa, ma tu ti lavi ogni tanto? Perché ogni volta sembri sporco in televisione quando ti vedo da qualche parte. Sono sporco, infatti mi stanno alla larga, no? Sono sporco, mi lavo quando sto su nelle montagne, quando vado a scalare mi lavo, quando sto tra la gente come voi non mi lavo. Come noi, in senso le persone. No, lui? Sì, come voi, conduttori TV, conduttori. E quindi non mi lavo, voglio almeno darvi fastidio olfattivo. Vedi? Olfattivo, va bene. Lui almeno, lui è sporco fuori, tu sei sporco nell'animo. Ma perché? Che ho fatto? Scusa, che ho fatto? Così corrotto nell'animo, lui almeno ha questa purezza d'animo. Mentre è sporco fuori con i capelli unti, le rame, però invece è pulito dentro. Tu ti fai quattro dolci al giorno e dici stronzate una dietro l'altra, quindi sei sporco dentro tu. Ma io non dico stronzate, ho chiesto semplicemente come. Sporco dentro. Ma proprio. Berlusconi lo vorresti ai servizi sociali, caro Mauro? Ma guarda, state. Intanto è andato da Napolitano. Intanto è andato da Napolitano. In montagna con lui in Baia. E alcuni hanno detto un pregiudicato al Quirinale, non poteva mai succedere in un altro paese. No? Ma ci si appiglia dappertutto. A me ormai me lo stanno facendo diventare simpatico. Addirittura, addirittura. Ah sì, ma siete anche voi i mezzi di informazione che gli danno sempre. Allora siete voi che lo coltivate, lo annaffiate e lo fate rifiorire. Poveraccio, io non lo so, ai servizi sociali mi sembra anche un'umiliazione. Però due sono le cose, o i servizi sociali o gli arresti domiciliari, Io fosse lui che fare. Fossi al suo posto, insomma, andrei in galera. Volete mettermi dentro? No, non mezze misure, domiciliare, buttatemi in galera, allora sì che sarebbe di nuovo credibile, e come? Ma lo sai che in realtà, io non so se lui ci voglia andare, ma a un certo punto gli è balenata in mente questa cosa, solo che in galera i magistrati non ce lo mandano, perché altrimenti lo trasformano, altro che martire come già è stato, in super martire. E allora a sto punto gli diano la grazia, gli dia la grazia il presidente, cosa fare il servizio? Ma vi vedete Berlusconi con la scopa in mano che va a raccogliere le carte, che piacere. Vabbè, ma i servizi sociali, sai, non è che sono per forza pulire i cessi, come disse una volta Don Mazzi. Noi lo ospitiamo volentieri qui, c'è da fare la legna, c'è da fare un sacco di roba adesso che va via la neve. Ma questa è buona come cosa, perché lì c'è la possibilità di fare i servizi sociali. Sì, ma qui c'è da fare la legna, tirare giù, montare le teleferiche, si divertirebbe un mondo, guarda. Ah, non c'è dubbio. Ciao Mauro. C'ho anche il cagnolino da prestargli, il mio Rocci. Ah, com'è che si chiama? Rocci. Che potrebbe anche andare d'accordo con Dudu. Vabbè, a presto, ciao Mauro. Il savoir-faire dell'italianità, savoir-faire. Insomma, uno che ci sa fare, ecco... l'italiano è che sempre distinto lì in Svizzera. Non stare lì così, mettiti comoda sull'erba, batto spesso il bicicori, non voglio farti fretta ma troppo inizia la festa. Sei ancora a casa, Emo? E a proposito, cari amici, a proposito di sesso e razzi, risentiamo a grande richiesta, devo dire. Vi ricordo innanzitutto che continua l'asta, la Zanzara @ radio24.it, mandate queste richieste, ormai siamo oltre i 40 euro a maglietta, la Zanzara @ radio24.it, abbiamo ancora pochi pezzi disponibili, la maglietta di Razzi, dove c'è stampato, oltre che il faccione del senatore, con i baffoni, anche la famosa scritta. Te lo dico da amico. Fatti le cazzi tuoi. Nel mio spazio sotto salice. Il preservativo, certo che è incredibile, caro Parenzo, tu ne hai usati pochi in vita tua, perché come come noto, dipende, come dipende noto, non sei momenti. Proprio sei piuttosto prolifico da questo punto dipende di vista. Dipende dai momenti, diciamo. Non sei, come dire, non sei un abitué del adesso, questo lo dici tu, dello, dipende dai momenti. Ma lo sai che c'è qualcuno che mi ha rotto i coglioni su sta storia del preservativo? Cioè? C'è qualcuno, adesso non faccio nomi perché per non essere sgradevole, come dire. Beh, strano. No, non faccio nomi perché sono. Che mi ha rotto i coglioni dicendo una vergogna, non si può esporre un preservativo alla radio, non si può far vedere. Abbiamo fatto una grande opera di prevenzione perché c'è ancora un sacco di gente in Italia. Ma a parte che è radio, cosa vuol dire vedere? No, abbiamo anche la webcam, non so se tu lo sai. Ma cosa. Sì, d'accordo. Abbiamo anche un mezzo che fa. Poi ci sono le foto, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, ho srotolato un preservativo, ma era all'interno di un discorso non solo sulla prevenzione, che in realtà non abbiamo nemmeno fatto. Rispetto a tutto quello che abbiamo fatto, questa mi pare la cosa più innocua. Eppure c'è qualcuno che ha detto una vergogna, qualcuno mi ha telefonato, è una vergogna questa cosa, bisogna togliere le foto da Facebook. Ma quale vergogna? Cioè, qualcuno pensa ancora che un oggetto che si chiama profilattico, preservativo, non si possa nemmeno pronunciare o non si possa far vedere, capito? C'è un oggetto qualunque, è come una matita. Come una matita, eccola qua, la matita è la stessa cosa. Che differenza c'è tra il preservativo, il profilattico e la matita? Beh, hanno due funzioni diverse. Certo, però. Ma dovrebbe essere un oggetto normale. E chi mi ha detto vergogna quella foto? Dovrebbe vergognarsi lui. Ma risentiamo il momento clou di cui vengo accusato. In realtà non è che venga accusato, c'è qualche deficiente che pronuncia frasi del genere. Comunque rimettiamolo, dai, a uso e consumo di chi ha capito. Qui c'è la questione del profilattico e siamo qui noi in diretta qui sulla webcam con un profilattico tedesco che adesso apriremo. Eccolo qui, un bel profilattico. Sei a Milano? Sono a Milano, siamo tu no, non essere assente. No, sono a Roma io. È molto faccio? Oleoso questo profilattico. Che mi avete preso? Un profilattico molto molto, come si dice? Lubrificante. Scusani, non devi dire cazzate. come al solito tu come ti tiravi indietro da questa mia esibizione, no? Come al solito. Vabbè, lasciamo perdere. Dipende da quale esibizione. No, ma era una cosa normale. Cioè, servono per la prevenzione, bisognerebbe usarli sempre, continuamente. No, ma io sono per distribuirlo nelle scuole, figurati. E allora, basta, no? E adesso non si può far vedere alla radio. Vedere alla radio, diciamo, alla webcam della radio. Sei per distribuirli nelle scuole. La maggior parte di noi, così, giornalisti, no, de sinistra, progressisti, moderni. Dai, su. Vabbè, a parte questo, Razzi dice di non averlo mai usato, però. Lei ha mai usato i profilattici in vita sua, Razzi? No. Mai usati in vita sua, i profilattici? No, io perché lo devo adoperare? Ma che ne so. No, beh, ma assolutamente. Quando era giovane, lei dice, hai avuto tutte queste donne. Qualche volta l'avrà usato in vita sua, sto no, preservativo? No, mai adoperato. Mai adoperato. Cioè, lei non sa che cos'è un preservativo. Non ha mai aperto un preservativo. Fare un po' d'attenzione. Signor Razzi, che poi spiega che se si rompe si possono avere bambini, perché sai che prevede nel suo disegno di legge. E questo è interessante, quel parte lì è... Possono arrivare i bambini oppure le malattie. Se si è rotto, che cosa può succedere? Può succedere che ci può un bambino o una bambina può venire, che non si sa. Oppure può succedere che se stanno malati si può ammalare, ecco. Allora uno per prevenzione denuncia l'accaduto e magari... Ma chi denuncia? Lui o lei si controlla. All'asso. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Via libera la legge che ridisegna confini e competenze delle province, l'abolizione definitiva con la riforma della Costituzione, Forza Italia un golpe, incontro tra Renzi e Verdini, il faccia a faccia alla tenuta del patto sulle riforme, Palazzo Madama contro proposta di 22 senatori del PD. Comincia il tour di Grillo per le europee, vinciamo noi, ci giochiamo tutto, poi attacca Napolitano, non doveva ricevere il condannato Berlusconi. Draghi, la BCE è pronta a comprare titoli di Stato e a tagliare i tassi. L'Italia continua il risanamento, il governo scopra le carte sull'economia. Torna in carcere l'ex sottosegretario PDL Cosentino, l'accusa di estorsione nel settore dei carburanti, arrestati anche i due fratelli. La discarica dei veleni di Bussi in Abruzzo, già da 40 anni risultavano mercurio e piombo nelle verdure e addirittura nei capelli umani. L'intuizione di un'azienda italiana, leader nelle attrezzature da cucina, spopolano in America e negli Emirati Arabi le sue pentole d'oro. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zanzara. Mi sono anche dimenticato. Mi sono anche dimenticato, caro Parezzo, che in realtà Razzi dice anche i ragazzi di oggi sono tutti effeminati, ti ricordi? Ah, certo, sì, infatti pensavo che... Non ci sono più i maschi di una volta. Ma scusami, siccome si parlava poco fa di sesso, eccetera, sì. Non hai mandato ancora questo dialogo eccezionale tra il signor Grillo e la prostituta? Mamma mia, sei rimasto indietro. Quando aspetta, l'hai mandato? No, non ho mandato, stai ascoltando, perché non sei distratto lì a Vicenza. Aspetta, stiamo prendendo, un attimo solo. No, perché gli ha detto... sul web, vada nella rete. Cioè, cos'è che ha detto, scusa? Vada su YouPorn, signora, cosa fa per strada? Ah, ha detto vada su internet a fare... Vada in rete! Ma se io fossi stato nella signorina, ma gli avrei tirato un ceffone in faccia, ma come vai in rete? Comunque bisogna chiamarla questa cosa. Cioè, ovunque lui dice, ma nella rete non serve. Questa zoccola... è un sesso virtuale. No, ma lui dice di andare sulla rete, cioè di mettere gli annunci sulla rete, ma di non stare per strada. Ma può essere tutto ridotto alla rete? Ma cos'è sta roba? Guardate che lo fanno anche in Germania, eh? No, beh, in Germania lo fanno. No, ma in Germania ci sono le case chiuse, per fortuna. Ma ci anche sono. La Merkel è sempre in rete, guardala. Ma non è vero. La prostituta dell'euro, evidente. È la zanzara capricciosa. Vabbè, dai. Dove andiamo? Franco, provincia di Padova. Franco. Stanno arrivando gli indipendentisti, eh? Vabbè, pazienza. Speriamo che ti arrestano così. Come pazienza? Così. Speriamo che ti danno due bastonate in testa. Così. Aspetta, che qui si scalda il clima, eh? Vabbè, Franco dalla provincia di Padova. Io sento un silenzio pazzesco là. No, si scalda il clima. Ma quando mai? Sembra una cosa ovattata, stai in una stanza protetta. Franco, dai, provincia di Padova. Sì, pronto? Vai, Franco, chi sei? Sì, ciao, sono... uno degli indagati, diciamo così. Uno degli indagati, benissimo. Come ti chiami di cognome? Zanardo. Franco Zanardo, indagato indagato di che cosa? Associazione sovversiva, terrorismo? Ho ricevuto ieri mattina un documento dal magistrato che mi sottoponeva alla perquisizione di casa, dell'ufficio, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, posso dire che chi mi ha perquisito si è comportato perfettamente, sicché niente da dire, hanno fatto bene il loro lavoro. Ecco, io ieri sera ho sentito, prendo spunto dalla telefonata di Oliviero Toscani, che secondo me dovrebbe essere insignito di una laurea honoris causa di ignoranza siderale. Ecco, il motivo dell'ignoranza siderale ve lo posso spiegare, così magari vi spiego anche i motivi del malessere, del malumore del Veneto. Sì, però scusi un attimo Franco, non mi sembra lei particolarmente preoccupato da queste accuse che le hanno fatto, da queste indagini? No, assolutamente no. Cioè se ne fotte totalmente? Non è che me ne fotto, non ho fatto assolutamente niente. Cioè di cosa è accusato lei? Di partecipare ad una banda armata? No, di che cosa? Presumo che abbiano trovato il mio numero di telefono da alcune persone che ci fornivano, io sono un esponente della LIFE, del libero sindacato di impresa degli imprenditori federalisti europei, e per esempio, vi faccio un esempio, il professor Rocchetta l'anno scorso ha fatto 8 lezioni di storia, le abbiamo filmate, abbiamo fatto i CD e le stiamo divulgando. Scusi, ma lei non sapeva niente di queste armi di cui si parla, il carro armato, niente? Io conosco personalmente queste persone e da loro io ho ricevuto e riconosco. Ma allora questo avviso di garanzia perché cos'è? Banda armata? Perché cos'è? Guardi, adesso il magistrato farà le sue indagini, vedrà se io sono implicato o no, fa il suo lavoro, i carabinieri... Ma anche lei, Franco, come dice e sostiene... non mi ricordo chi, uno di quelli che in realtà gli arresti domiciliari vuole polverizzare lo Stato italiano? No, non è che vogliamo polverizzarlo, perché sarebbe, è già polverizzato, sicché sarebbe un lavoro doppio. Cioè è già scomparso, dice lei, si è già dissolto. Il problema, Cruciani, è questo, che secondo me, io sono anche un ex collega, trasmettevo in una piccola radio. No, ma la cosa che voglio sapere, al di là del problema qual è, lo sappiamo, le vostre richieste le conosciamo, lei si vuole separare dall'Italia attraverso le armi, sì o no? No, assolutamente no, perché le nostre armi, l'ho detto anche i carabinieri ieri mattina, sono due. Quali? Internet, la cultura della Serenissima che è stata... Vabbè. E poi... No, ma vi spiego anche perché. No, però scusi, io ho capito benissimo, Franco. Lei la cosa importante è che lei non abbia. Sì, d'accordo, la cosa importante è che lei non abbia condiviso mai alcuna azione violenta armata contro lo Stato, e questo è il punto. Ma il fatto d'armi, lei? Assolutamente no, perché non serve a niente, è una cosa stupida, nel senso che. E ancora quelli i suoi amici che invece parlano di armi, parlano di acquisto di armi. Il magistrato farà le sue indagini. Ma lei che crede? Che siano sbruffonate, che siano delle cose dette così per dire. Io che conosco queste persone che da noi hanno solo fatto operazioni di diffusione culturale tramite libri, documenti storici inoppugnabili. E se vi dico due esempi, ecco, ma il problema centrale, se posso. Qual è? Dimmi, però velocemente, Franco, dai. Fammi parlare un attimo, 10 volte. Hai parlato, hai detto un sacco di cose. Lui, invece di litigare o di invitare della gente che non sa niente. Vabbè, lasciaci fare il nostro mestiere, non è che ce lo devi insegnare, dai. No, ma il tuo mestiere lo puoi fare benissimo informando la gente. Ma io lo faccio come mi pare, non è che me lo devi dire tu, dai. Lo fallo come ti pare. Se tu sapessi quali sono le condizioni di sfruttamento della regione del Veneto, Lombardia... Guarda, che io sono pure dalla tua parte, capito? Per cui non mi devi dire che cosa devo fare o cosa non devo fare, perché sono in parte, ti do anche ragione, capito? Io ti ho dato... Cioè voi avete la capacità, un attimo solo Franco, e Parenzo, hanno la capacità di mettersi contro pure le persone che in realtà sono ben disposte nel loro confronto. No, infatti, Franco... Il signor Franco, io voglio chiedere veneto, questo. Tu lo sai qual è il costo medio di un cittadino veneto dichiarato dalla ragione di... Lo so benissimo, un attimo solo, un attimo, fermo, un attimo, abbiamo la borsa, un attimo. Sei ancora a casa? Le zanzare fanno male. Cornute che non sono altro, questi sono dei cornuti. Prostituta con cui parla Grillo a Pompei, davanti agli scavi di Pompei, caro Parenzo. Sì, però fammi dire una cosa all'indipendentista, scusa. Aspetta un secondo, aspetta, no, fermati, mamma mia, fermati. Allora, la prostituta che si trovava davanti agli scavi di Pompei con Grillo, adesso stiamo cercando di recuperare l'audio ma si sente poco, eccetera. La signora si chiama Elisa. Elisa, c'ha un bel telefonino in mano. Cara signora Elisa, faccio un appello, ci chiami direttamente lei, altrimenti ci costringe per due ore lì a cercarla, una prostituta dei Pompei, come facciamo lì? Cioè bisogna chiamare il mattino tutti i napoletani del mondo. Signora Elisa, signora, sei adesso in macchina, sicuramente sei in macchina, qualcuno è sulla radio, la zanzara, eccetera. Chiami 800 24 00 24, chiami lei e ci spieghi com'è andata questa conversazione con Grillo. Devo dirti la verità, caro Parezzo, che Grillo almeno sta lì per strada, parla, vai su internet, dovrebbe essere più curiosa, dice a questa signora, vada su internet, si informi invece di stare qui per strada a battere. I suoi parlamentari si sbrigassero a proporre un disegno di legge come ha fatto Razzi, come ha fatto la Lega sulla prostituzione. Che vuoi adesso? Avanti, dilla tua, avanti, Parenzo. No, allora, che non capisco cosa vuol fare adesso, un nuovo sito www.prostituisciti.it, tutto online, ma non ho capito cosa gli interessa a lui se la signora giustamente lavora per strada e vuole stare per strada. No, non è così, gli sta dicendo, gli sta, la stessa signora dice, speriamo che aprano queste case. Quello, quella lì, la signora che lavora, gli ha chiesto: caro Grillo, tu che urli tanto, dimmi come cambierà la mia, come potrebbe cambiare la mia situazione. E lui la risposta, dal punto di vista anche probabilmente fiscale, dal punto di vista. E lui, vada nella rete, tutto online. E vabbè, certo, dovrebbe essere. Che ad ogni cosa tutto è sempre nella rete. A me manda i matti questa roba. A un certo punto, se tu gli chiedi, tu lo incontri per strada, gli dici: scusi, signor Grillo, per caso lei arriva da lì, da Pompei, sa dov'è un gabinetto? Superato. Non ci sono i gabinetti, tutto online. Sì, però scusi, ho la vescica che mi spinge e devo fare la pipì nella rete, nel computer, nell'iPad. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, Ti svegliamo quando tu stai per dormire. In Germania lo fanno. Ma che pulito le zanzare, riproducendoci col tuo sangue. Se noi siamo matti, noi boemo. Va bene, recuperatemi quello di prima, va. Casa tua al tuo cortile, fino a farti. Non c'è più niente. Oggi abbiamo ricevuto la visita, caro Parenzo, qui a Milano. Della finanza. Dove, no, la finanza no, cioè la finanza no. Di un signore che è l'autore di questa canzone che stai sentendo, no? Che magari tu non lo sai, ma c'è qualcuno che le fa queste canzoni. Che pensi che siano inventate così da nulla, che calino così dall'alto, no? Beh, certamente non le scrive Casaleggio. Noi le abbiamo un po' rubate, come dire. Poi però le paghiamo ogni tanto, penso, credo. Beh, sì, la schiai, i signori che si chiamano Ballanzasca, questo gruppo, capito? Ballanzasca, in onore del signor Ballanzasca. Beh, non so se proprio in onore. Beh, sì, qualche collegamento ci sarà col signor Ballanzasca. C'è la faccia da criminale già questo qua, che ho conosciuto prima. Mamma mia, se lo incontri per strada scappi. Lo incontri sotto casa di sera scappi. Mezzo magrebino, non so, verrà. Nei prossimi giorni verrà qui. Vabbè, dove siamo qui? Nicola da Padova, su, Nicola. Ciao, buonasera a tutti. Dimmi, grazie. Dimmi. Niente, io volevo commentare insieme con voi un aspetto che è successo ieri durante l'illusione da parte dei carabinieri all'interno di questo capannone. Sì. Hanno sequestrato, se avete. Poi comunque volevo dire una cosa, Nicola, il fatto stesso, Parezzo, che ci chiami un indagato per associazione sovversiva, sì, non so che cosa, alla radio, e ci spieghi la sua situazione, ti dà l'idea della cosa farsesca, no? Cioè questo, bravo, qua è uno, bravo, dei 50 indagati. No, non solo. Chiama la radio, dice: sono io, mi hanno accusato, sono venuti i carabinieri, e ci racconta come. Dai, no, su. Ma se più. Questi qua fossero un pericolo, già no, sarebbero tutti al. Dai, su. La cosa che mi fa arrabbiare è che l'indipendentista che vuole l'indipendenza del Veneto rompe i coglioni a noi su come fare la trasmissione. Se è indipendentista, faccia una radio libera sua, ma non rompa le balle alla nostra sovranità, al nostro piccolo Stato. Esatto, noi abbiamo la sovranità della zanzara, non ci rompa le balle. Ci voleva spiegare il reddito medio dei veneti rispetto agli altri. Lo sappiamo che i veneti rubano i soldi, cioè il resto dell'Italia. Lo sappiamo benissimo che contribuite più degli altri. Lo sappiamo tutto. Non ci rompa le scatole con queste cose. Nicola, allora, vai. Allora, io volevo dire che ieri hanno sequestrato il blindato, il famoso tank utilizzato nel 97 durante l'assalto al campanile di Venezia. Sì. quello che girava in piazza San No, ma non è lo stesso, non è lo stesso. No, ne hanno sequestrati due, ne hanno sequestrati. No, ma l'hanno ritrovato, non mi ricordo adesso. Sì, è quello. No, l'hanno sequestrato anche. Vabbè, allora? Questo dicevano i giornali locali. Allora io dico, bene, quello li hanno sequestrato nel 97, dopo averlo sequestrato l'hanno messo all'asta, se l'è aggiudicato una persona, questo tempo ha viaggiato nelle varie manifestazioni indipendentiste del Veneto e adesso l'hanno risequestrato un'altra volta. A me sembra un paradosso questo. Mi sembra, se era un mezzo pericoloso, dovevano assolutamente distruggerlo quando l'hanno sequestrato. Ma noi se si dice, se sì, no, non mi interessa la storia del tanco. No, perché devi sapere che è una follia, ha ragione lui. Cioè? Cioè, questo qui è quello usato nel 97, che sequestrarono all'epoca. Poi fanno la vendita giudiziaria all'asta dei mezzi sequestrati. Bravo. Questo qui, che è il signor Contin, lo ha ricomprato, questa è la roba divertente, per 6.000 euro. E se l'ha rimesso nella sua casa. Sì. E adesso il signor Contin, e io tra poco avrò ospite l'avvocato che lo difende, se l'ha ricomprato lui per 6.000 euro, lo teneva in casa. È una cosa ridicola, dai. No, sì. Perché mettono all'asta i beni sequestrati. E lui se l'ha ricomprato, lo stesso che l'ha utilizzato se l'ha... Bravo, e questa è una cosa incredibile. Cioè lo Stato ha consentito che uno di quelli che hanno utilizzato nel 97 il tanco... Bravo. Dai ragazzi, insomma, come si può sopportare una follia di questa? No, ma questa è una cosa divertente. Franco, ecco, è ritornato. Franco, provincia di Padova. Ma non è possibile pensare che il tanco non fosse pericoloso, secondo voi? Ma perché secondo lei era davvero pericoloso? Dai Franco, adesso ci sta coglionando lei. Ma secondo voi lo Stato italiano mette all'asta i carri armati veri qui ai privati? No, appunto, a maggior ragione, certo. Fate un ragionamento elementare, se l'hanno messo in circolazione vuol dire che non è pericoloso. Ma certo, ma non è di quelli sequestrati. Nessuno con una ruspa, con un camion a casa può farci quello che vuole, poi dipende che uso ne fa. Vabbè, io non ho capito una cosa, Franco. Lei dice di essere pacifista, gandiano, del bene. Voi mi avete chiesto il cognome, io ve l'ho dato, andate nella lista, vedete. Ma io non ho chiamato per farmi pubblicità. Io. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha sostenuto? L'ha detto quella specie di giornalista che è di fianco lì, no, che è anche mio concittadino, purtroppo. Ma non l'ha detto questo. Amico indipendentista. Che cosa hai detto? Parenzo, cosa hai detto? Io ho detto, intanto stai serenissimo, primo. Stai serenissimo, come direbbe Renzi. Primo. Ma secondo te non sono sereno? Mi sembra sereno, mi sembra, chiama pure la radio, figuriamoci. Secondo, io ho detto semplicemente che è tutta una cosa molto farsesca. Dopodiché, siccome qualcuno dei vostri amici lì, uno come te che parla di farse, insomma, mi sembra un attimino, beh, adesso non è che ti faccio fare la lezione da uno indagato però sulle vicende delle cose, vabbè, che sia una farsa, no. che qualcuno abbia detto cazzate, allora, al telefono, guarda. O che pensava di fare chissà quale rivolta armata, magari scherzando, guarda. Che ci sia un po' di carnevalata, caro Franco, su questo non c'è dubbio, su, dai. Ma guarda che voi state parlando di cose che sono state scritte dai giornali. Ma no, le intercettazioni sono le intercettazioni. Bene, poi allora, io, il giudice fa il suo lavoro, io non metto in discussione il lavoro del giudice o dei giornalisti. Guardi, io che lo stesso Rocchetta, Franco, ha detto dopo manderemo un'intervista a uno che l'ha visitato oggi in carcere, che probabilmente che ha detto, Parenzo, esattamente? Qualche ingenuità l'ha commessa. Qualche parola ingenua, qualche cosa. Come dire che qualcosa di troppo è stato detto. Poi, sono competenze del giudice. Io ho chiamato, se posso dire la mia. Non è un consiglio, è un'idea che ho io. Noi stiamo facendo con la lista, tramite alcuni associati che sono stati in informazioni, diamo un servizio informazioni riguardo i dati della ragione. Ma quello va bene, ma quello va benissimo, figuriamoci. Se la gente non conosce l'esatta entità, e tu hai detto che conosci, tu sai quanto costa, posso darti del tuo? Sì, certo. No, io ho 62 anni, non so quanti ne hai. Franco, ma adesso non è inutile qua snocciolare i dati, sai, dai. Quanto costa un cittadino in Val d'Aosta, tu lo sai? No, non lo so, dimmelo allora tu. Allora te lo dico io, costa 11.000 euro, 8.000 un Trentino e 2.850 un Veneto e 2.700 un Lombardo di media, una media del Polo. Secondo te 20 miliardi di residuo fiscale che spariscono non al sud, attenzione, i soldi non vanno al sud. Vabbè, lo dirai al magistrato. Ma quello va bene, queste sono le tue idee, ma di che cosa ti accusano? Di essere un sovversivo? Dimmelo. ma insomma mi accusano di avere partecipato alla banda armata, però evidentemente trovano i numeri di telefono da Contin a faccia a Chiave Gatto, che è uno della Life come me, e prendono tutti i numeri di telefono e il computer. Beh, ci deve essere qualcosa in più. Guardano se sono implicato in qualcosa. Ci deve essere qualcosa in più. Lavoro, fanno il loro lavoro, io non lo discuto. Ma secondo lei sono i magistrati di uno Stato occupante? Lo Stato è di sicuro occupante, storicamente dimostrato da alcuni. Vabbè, secondo lei sono i magistrati di uno Stato occupante? Ma lei se volete vi mandiamo sui documenti. Vabbè, ma va bene, i documenti va benissimo. Secondo lei sono i magistrati di uno Stato occupante, che fanno bene il loro mestiere? Ma riconosce la giustizia italiana? Posso dirti una cosa, sì, Franco, la riconosci la giustizia italiana o no? No, io no. Per me, ma posso dire ma lei sa, Franco? Vi lascio. Sì, allora, sì, Franco. Vorrei parlare con Cruciani. No, voglio dirle una cosa, Franco. Diciamo che mi è più simpatico Cruciani. Ma sei messo bene, Cruciani, beato te. Ma perché io no? Mica allora, mi offendo. Io non ti ho mica detto niente. Appunto. Ho detto che mi è più simpatico Cruciani. No, ma mica sono offeso. I indipendentisti indagati. Allora, io sono un ascoltatore quotidiano della vostra radio. Certo, certo. E perché mi piace. Imparo un sacco di cose interessanti, ma ascolta anche Barisoni, niente da dire, però secondo me in Italia non voi ma in Israele la situazione è negativa e devastante. Vabbè, allora che volevi dirci, Franco? Su, io volevo dirvi una cosa, che se voi qualche oretta la spendete a divulgare qualche notiziola su dove i cittadini, non voi, ho capito benissimo, però Franco, noi non facciamo un programma, ho capito benissimo, noi non facciamo, tu adesso hai avuto lo spazio per dirlo, noi non facciamo un programma di divulgazione, per me va benissimo, il fatto stesso che tu sei indagato di associazione sovversiva e puoi chiamare qui tranquillamente, la dice lunga su che tipo di indagine sia questa, detto con tutto rispetto per le autorità civili, politiche e militari. Detto questo, hai detto prima una frase, caro Parenzo, non riconosci la giustizia italiana, ecco. Questo l'hai detto, caro Franco. Vabbè, mi senti? Sì, ti sento, l'hai detto, ma per carità, va benissimo. Tanto vi ringrazio per lo spazio. Ciao. Poi... Franco, a presto, ciao. E siamo qui, Stefano da Roma. Stefano. Sì, dimmi. Buonasera Cruciani, salve. Senta, io mi chiedevo, c'è un po' di differenza anche da parte sua, sì, su... trattare questi secessionisti veneti come dei burloni, pazzi, sì, da ospedale psichiatrico, piuttosto che invece i no-tav, che... Me l'aspettavo questa domanda, Stefano, me l'aspettavo. Ah, la domanda però... Me l'aspettavo, me lo sono chiesto anch'io, questo atteggiamento che apparentemente può essere diverso. Le do subito una spiegazione, caro Stefano. Lei ha mai visto in Veneto un atteggiamento violento, un'azione violenta, un assalto a una camionetta dei carabinieri, un assalto a una caserma di polizia, un assalto no, a una caserma? Ha visto in Veneto lei queste cose qui? Le ha viste o no? Io ho visto in Veneto un gruppo di persone che hanno preparato un'arma. Mentre invece in Piemonte non ho mai visto un gruppo di persone che un'arma hanno preparato quale sarebbe? Quel car armato sarebbe un'arma secondo lei? È un trattore, non è un car armato, è un trattore trasformato fornito, in car armato, sì, fornito di cannoncino che volevano ferro. Volevano. Sì, ma okay. Al di là di questo, io non sto dicendo che è una bella cosa quella che hanno fatto, è una cosa ridicola. È una cosa ridicola. Anche secondo me sono dei poveri pazzi. Sì, ma c'è una differenza, caso, c'è una sono grande dei differenza. Poveri pazzi pericolosi. I no-tav sono per qualcuno sono pericolosi. Per lei evidentemente sono dei patrioti, giusto? O comunque no, io non patrioti, ho detto sono patrioti, sono patrioti, dei erano altri. Se dei rivoluzionari. Dei rivoluzionari. Ma che dei rivoluzionari? Sono dei libri cittadini che manifestano contro, sì. Certo che manifestano. In alcuni casi, in altri, con delle forme che sono totalmente diverse da quelle viste invece in questi giorni in Veneto. Ho capito. Contro un'invasione del proprio territorio, rivendicano una... Guardi, appunto, che io non parlo dei no-tav che sono pacifisti, io parlo di quelli che sono indagati per esempio di terrorismo dalla Procura di Torino, indagati ovviamente, sto per dicendo indagati di terrorismo perché per aver infranto i sigilli di un rifugio di montagna. Non solo questo, con altre delle cose. Forbici a punta arrotondata. Altre cose ancora. Comunque, me le dica perché io non sono un giornalista e lei è il giornalista. Qui non io... c'è tempo, poi gliele dirò uno dei prossimi giorni, grazie. Sono come zanzare, queste ombre sulla strada. Io voglio Elisa, la prostituta che ha avvicinato Grillo agli scavi di Pompei. Fantastica conversazione che purtroppo non possiamo offrirvi perché non si sente bene. Andatevela a vedere su internet. E Grillo risponde: lei signora deve diventare più curiosa e lavorare mediante i siti internet. È giusto che abbia remore a stare per strada. Alla richiesta della donna di poter pagare le tasse, Grillo ha replicato: è giusto. Noi dei 5 Stelle siamo a favore di proposte sempre più avanzate, però fino adesso queste proposte sulla prostituzione non è che si sono viste troppo da parte dei 5 Stelle. Ma abbiamo con noi Carlo Giovanardi, senatore del Nuovo Centrodestra, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Bene. Senta, lei che è così attento alle questioni della legge e della legalità, ma perché non le legalizziamo queste prostitute? Cioè, sono già legali. Ma non sono legali, no, su Giovanardi. Ma non, non c'ho qua il resto delle carine degli altri giornali di oggi, basta che voi li sfogliate, che trovate qualche centinaio di offerte, le più variegate, con indirizzo, numero di telefono, di ogni nazionalità, con ogni tipo di offerta, dove si può accedere liberamente, perché come è noto in Italia non è vietata la prostituzione. Ma come no? Statisticamente è una cosa diversa. Sì. Quindi oggi in Italia ci sono almeno contemporaneamente 10 tipi di offerta, sì, di prostituzione, sì, ahimè, da quelli per le strade, quelle anziane, quelle malate, quelle che hanno l'AIDS, poi ci sono quelle sfruttate. Vabbè. Che vengono dai paesi dell'est. Scusi, ma non sarebbe meglio aprire le case chiuse di nuovo? Ma sono, cioè, già aperte. Fare il bordo, ma non è vero, prende, apre un giornale, fa una telefonata, ma è diverso, e ha l'accesso a tutti i tipi di prestazioni che ritiene utili. In più il fisco oggi, e da qui è nato lo scandalo, quando ha trovato risparmi in banca, ma questa è l'assurdità, li ha tassati, questa è l'assurdità. No, non è l'assurdità. Cioè, secondo lei è giusto andare a pizzicare le prostitute che guadagnano un sacco di soldi anche se non sono legali? Certo, perché il fisco ultimamente, ma non solo per le prostitute, gli introiti, anche se derivano da attività non penalmente perseguibili, no, ma secondo lei è giusto, li tassa. Anche quelle che arrivano dalla criminalità organizzata. Ho capito, però in galera. Secondo in lei, questo caso, in questo caso delle prostitute, è legale che il fisco gli abbia mandato cartella dicendo: cara mia, tu hai beni e possedimenti, hai in banca tanti soldi che derivano dalla, sì, tua attività, che è un'attività lecita, quella della prostituzione in Italia, sì, e quindi io ti tasso. No, no, no, non dicono che è lecita. Prima è chiedono, lecita, prima è che lecita. No, non è lecita, no, è assolutamente lecita. Non è punita, poi, che è diversa. Se vogliamo non che qualcuno va da una prostituta, lei gli rilascia una ricevuta e torna a casa con la ricevuta. Perché no? Io non lo so perché. Ma perché lei non vuole la legalizzazione della prostituzione? Io ho intanto ripeto, è già legale. Quello che è legale è lo sfruttamento della prostituzione, e cioè è di fare un'impresa attraverso lo sfruttamento di donne che si prostituiscono e guadagni, ma questo che è proibito in Italia, il resto è già permesso. Sì, ma se uno vuole aprire e fare, perché dobbiamo assistere quotidianamente a migliaia di persone italiane che vanno in Austria e Svizzera? Sfruttare il lavoro. Ma uno che apre un bordello non è che sfrutta, Giovanardi, non sfrutta. Ma uno sfrutta, che... del resto lo sa che Germania e Olanda stanno tornando indietro. Ma Germania non sta tornando indietro manco per niente. In direzione esattamente opposta, perché io per esempio ritengo che Piazza del Pantheon qui a Roma, o Piazza Navona, se come succede ad Amsterdam, dove il comune sta facendo di tutto per limitare il fenomeno, ma le vetrine sono aperte lì. Cioè a Piazza? Che succede a Piazza Navona? Non ho capito. Ma se fossimo come in Olanda, a Piazza Navona o Piazza del Pantheon, si potrebbero aprire le vetrine. Le vetrine con le donne che si vendono. Ma no, ma dai, ma già, non è non così. Non mi sembrerebbe un grande passo. No, però, se scusi, vogliamo andare, se poi vogliamo dire dove ma in Austria non c'è una piazza dove ci sono le puttane in vista. Se poi vogliamo andare a dire dove si aprono i casini, andate a dire agli inquilini della casa dove qualcuno vorrebbe aprire un casino. Andate a dire agli inquilini rispetto alla scelta di mettere lì quel tipo di attività come la pesca. Ma ci sono anche le ville, le ville isolate. Ci sono i quartieri, infatti, dove... Senta, Giovanardi, io le devo fare una confessione. Io sono andato due volte. Posso fare una confessione pubblica? L'ho già detto più volte. Io sono andato due volte. Lei non è mai andato, no, immagino, all'estero. Io ho un'esperienza piccola, piccolissima, però ci sono andato. Una volta all'estero sono andato, ma non a puttane all'estero. Non a puttane, vabbè, ognuno ce l'ha. Non sono andato a pagamento. Mai, lei non ha mai pagato nessuna donna in vita sua. Benissimo. Io invece mi è successo due volte in vita mia, per curiosità, devo dire, no, perché avessi particolare bisogno. Sono andato a visitare un bordello in Svizzera, due anzi in Svizzera e uno in Austria. e poi le spiego come funziona la storia. È una cosa molto pulita, molto, molto tranquilla, molto in cui uno ha veramente il senso di un paese civile, di un paese civile. E questi posti, la maggior parte di questi posti, sono in zone lontanissime dai centri, sono in zone isolate, zone dove c'è spazio, non è che ci sono i condomini con le mamme sopra che fanno oddio io che succede. Io quando sento questi discorsi puerili o fanciulleschi. Ma perché puerili? Ve lo dico io perché sono puerili o fanciulleschi, perché voi pensate semplicemente ad aggiungere ad un mercato della prostituzione che ha già tantissimi segmenti che vanno da quelle per strada, ripeto, le tossico, le malate, le sfruttate, e lì io sarei, come l'Europa vuole, inflessibile nell'impedire, anche per ragioni igienico-sanitarie, che questo avvenga. Allora lei a tutti questi mercati, a quelli già aggiunge, oggi liberamente, gli altri sparirebbero, perché può fare un numero di telefono dopo aver preso e speso 1,20 euro in un giornale e trovare 520 offerte di allora professioniste. Allora a questo mercato ne aggiungete un altro, dice oltre a questo, questo, no, questo, ma quelli questo sparirebbero. No, aggiungiamo anche la casa di lusso. No, ma quelli sparirebbero. Ma voi pensate di risolvere gli altri problemi con questo? Aggiungete una, però passo il principio su cui vorrei discutere. E qual è il principio? Che lo Stato il prende i soldi. Che un imprenditore certo può guadagnare sullo sfruttamento delle donne. Ma scusi un attimo, Giovanni, ma se qualcuno può oggi guadagnare sulle sigarette che ammazzano e su altre cose ancora, ma perché non bisognerebbe guadagnare su... Lei pensa che si possa perché eliminare... Perché l'essere umano non è una sigaretta, perché... Ma no, ma dai, ma ci sono donne, ci sono donne che vogliono prostituirsi e che vogliono guadagnare col proprio corpo. Un signore legalmente o lo Stato possa arricchirsi su il fatto spontaneamente, quella che va in una casa poi qui ci va spontaneamente, anche succede, ci fa perché non può fare altrimenti, un attimo ci fa solo perché è ricattata, un attimo ci solo fa perché la criminalità organizzata, no, semplicemente perché è un modo come un altro di guadagnare, un attimo. Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. Siamo tutti contenti che Renato Brunetta abbia ritrovato il suo cane. Lo va a confessare, lo va a raccontare a Rai 1. Il Dudu Act, stiamo alle elezioni. Lei è un cane, lei è un cane o un gatto? Io no. Benissimo, allora io ho un cane. E l'altra sera l'ho portato a fare la passeggiata notturna. Ti è perso o l'ho perso? Sono stato male. Poi è tornato. Allora, questo vale per 10-20 milioni di famiglie italiane. Cioè, Brunetta cerca di spiegare che il Dudu Act, che pare sia nelle intenzioni di Forza Italia, cioè di promulgare una serie di, no, di fare delle proposte di legge per favorire i possessori di canini, sia una cosa seria o comunque venga incontro ai bisogni degli italiani. Io ricordo una frase su questo che recupereremo di Vittorio Sgarbi l'altro giorno, che fotografa alla perfezione questa cosa, perché se un partito, amici miei, diciamo la verità, se un partito arriva a parlare di cani e di gatti, significa che non c'è un cazzo da dire. Lo dico chiaramente, significa che non c'è un cazzo da dire. Understand? Oh, c'è anche le dentiere. Che ha fatto Brunetta? Che ha detto? Pure le dentiere? Dai, su, le dentiere. Io non le posso ascoltare queste cose, le dentiere. Ma va bene 20 anni fa, una battuta, una butade. Dai, non si possono prendere seriamente queste cose. Sono cose assurde. Dai. La politica deve interessarsi di tutto, come deve interessarsi delle dentiere. È l'altra cosa che volevo chiedere. Delle dentiere, ma lo sto anticipando io, non vogliamo chiamarle dentiere, il lavoro del dentista, diceva quella pubblicità, ma vogliamo parlare di queste cose. Io penso che un anziano che non possa permettersi la dentiera o che la sua mutua gliela prometta tra 6 anni o tra 5 anni, è una persona infelice che sta male e non è mica giusto. Siamo alla frutta. Poi oggi Brunetta ha gridato anche al golpe perché... No, guarda, però... Dimmi. No, dai. Voglio dire... Dai, su. Pensandoci un attimo... Io sono sicuro che Giovanardi, meglio... che pure ne ha dette di cotte e di crude nel passato, è molto felice di non essere in questo partito che si attacca ai cani, ai gatti e alle dentiere. Giovanardi, mi dica la verità, di non essere... Giovanardi ha sottolineato che i canini in Italia costano 600 milioni di euro all'anno di denaro pubblico. Sì. 1200 miliardi. Cioè? Giovanardi pensa che nel momento in cui la sanità ha problemi drammatici, sì, che il ministro ci ha spiegato l'altro giorno che i nuovi farmaci salvavita che possono essere distribuiti ma hanno dei costi esorbitanti. Bisogna dare meno soldi ai canili? No, ma una spending review la farei. Una bella spending sui canili. Una spending review su 600 milioni di euro perché tagliare i canili. Quando il mio amico Brunetta dice sono stato male perché il mio cane andava via, io avevo un cane che si chiamava Pallino, pure, che in questo periodo spariva per 15-20 giorni, sì, tornava dopo 20 giorni massacrato di botte eccetera eccetera. Pallino, era un cane libero, faceva quello che doveva fare e non mi sono mai preoccupato di andarlo a portarlo fuori al mattino o alla sera, ma voglio dire che gli eccessi, insomma ragazzi, capisco i cani, i gatti, i canarini, però non i esageriamo, topi, gli hanno detto, io vorrei che venissero prima gli uomini, le donne, i bambini, le famiglie. Cioè, per lei dunque questi di Forza Italia che vogliono aprire i club Forza Silvio, quello che è basati soprattutto su, no? Su io da sempre sconti sono, sui veterinari. La Brambilla dice che non si devono toccare i topi, neanche per la sperimentazione animale. No, i topi non credo. Come no? Cioè, scusi, nella legge, poi l'abbiamo provato nel decreto legislativo, c'era la proibizione di testare sui topi, per esempio, i farmaci d'abuso, per vedere che tipo di direzione avevano i topi. Lei... A Milano hanno fatto saltare per aria i laboratori e hanno liberato le cavi i topi, sostenendo, avete visto quella povera ragazza di 20 anni, guardate che io voglio vivere, quindi l'hanno insultati. Ma gli animalisti ancora la perseguitano, Giovanardi? Gli animalisti sono quelli fondamentalisti. Sono un problema per l'economia italiana. Ma scusi, vado a vedere solo negli ultimi 10 giorni quello che hanno combinato, facendo saltare allevamenti con atti di violenza, con atti di intimidazione. Ma bisognerebbe intervenire in maniera... Cioè lei dice che bisogna intervenire come sono intervenuti per gli indipendentisti veneti, perché no? Gli veneti, lì le retate fatte nelle osterie, io concordo pienamente che allora... bisognerebbe arrestare migliaia di persone tutte le volte che chi alza un po' il gomito. Cioè sono più pericolosi, sì, quello è vero, quello è, su questa ragione, sono più pericolosi gli animalisti, dice lei, degli indipendentisti veneti. Guarda che in America era una legge speciale proprio per gli animalisti, hanno fatto un act specifico per bloccare le attività di gruppi di fanatici che colpiscono tutti quelli che nella loro ideologia farneticante, nutrendosi di animali o vestendo pellicce, costituirebbero persone che dal loro punto di vista rappresentano assassini, io sto parlando degli estremisti, c'è questo... anche quel Mocavero, amico nostro, no Parenzo, come si chiama, signor Mocavero, sì, Mocavero DJ, l'ex quello di 100% nuova. Animalisti no, là, no? Sinceramente dire, quando ho visto quello che dicevano modo con il quale avrebbero dovuto procurarsi quella specie di cannone andando alla combe, cioè, ma siamo discorsi da delirio. Lei dice molto più pericolosi certi animalisti, diciamola tutta. C'è un fondamentalismo, appunto, animalista che è più pericoloso dei secessionisti. Guarda, vi manderò, se volete, l'elenco degli attentati che sono stati fatti nell'ultimo anno e mezzo in Italia. Ma appunto per questo le dico. Hanno bruciato furgoni, hanno danneggiato negozi. Cioè, lei dice altro che indipendentisti, ma questo diciamolo... La realtà è che tutti quelli che lavorano nel settore sanno e conoscono. Sì. Mi hanno mandato anche le foto ultimamente, 5-6 giorni fa, di un altro stabilimento che è stato... Sì. Distrutto e danneggiato. Cioè, la realtà è che la magistratura dovrebbe, come dire, no, invece di occuparsi di quelli che alzano il gomito. Quando io sono andato a cercare di difendere quei poveracci del circo, è morto l'infarto qualche giorno fa un circense, proprio dopo un diverbio con gli animalisti che insultavano le mamme e i bambini che andavano. Sì, ma lo dica la magistratura di rivolgersi a questi qua invece di andare a pescare quelli che alzano il gomito. Allora, quando io sono andato davanti al circo, ho trovato 20 vegane. 20 vegane, sì, vegane. Tutte vestite di nero. Come Red Ron. Con le braccia alzate e le mani piene di vernice rossa, che mi hanno urlato: assassino, assassino. E quando mi sono avvicinato, mi hanno spiegato perché era un assassino. Perché? Perché lei mi ha detto: si nutre di prosciutto, di parmigiano reggiano e di uova. Cioè di prodotti originali. Io voglio fare la guardia del corpo di Giovanardi quando quando va in questi centri qua, quando va a fare i centri, ero andato a portare solidarietà a quelli del circo a cui avevano ammazzato la giraffa, perché la giraffa l'avevano fatto scappare la giraffa, notte gli animalisti hanno ammazzato la giraffa. Allora, giustamente Scarbi, la giraffa, se gli animalisti non l'avessero fatto scappare, sarebbe ancora viva. Parenzo, che c'è? Che c'è? No, voglio dire all'amico Giova, che saluto. Grandissimo, si dice. Tutto sommato, però, questa svolta di Forza Italia è positiva, perché è molto meglio occuparsi di cani, gatti, pesci rossi e dentiere, piuttosto che di antiproibizionismo. Cioè, fa molto meno male, anzi, fa bene occuparsi di dentiere, pesci rossi e anche uccelli, uccellini, uccellacci. Ma quando mettete le mani sull'antiproibizionismo, sbattendo la gente in galera perché magari si è fumato una canna... Ma non è di Forza Italia, Giovanardi, ti volevo segnalare. Lo so, e infatti è un audace paragone quello di Parenzo, ma è demenziale, cioè non ho capito cosa c'è. No, non manco ho capito io, vabbè. No, ho detto che la svolta di Forza Italia è positiva. Di persone muoiono ogni anno di overdose, che ci sono droghe micidiali in giro. Vabbè, lei comunque non può continuare a dire che la droga è leggera, che la marijuana... Sinceramente non lo capisco. Lei non può continuare. Ho detto che è buona la svolta di Forza Italia perché si occupa di cani e gatti e non di altro. Ma vabbè, ma comunque, quando andate al ristorante stasera, sì, ringraziate Giovanardi, quando andate a mangiare al ristorante o al bar potete mangiare tranquillamente. Perché? Senza essere dentro a nuvole di fumo e vi pigliarvi un cancro nei polmoni, cosa che capitava anche negli uffici. Ma che c'entra questo, Giovanardi? Facessero passare una legge che permette che è stata a tutti gli italiani di andarsene tranquillamente a mangiare, e agli italiani che vogliono fumare, di fumarsi dove vogliono, ma non facendo venire il tumore agli altri. Vabbè, questo però con le droghe leggere non c'entra niente, lei non può continuare... Ma anche le droghe leggere non c'entra niente con i cani e i gatti canarini. Ma quello è Parenzo, che c'entro io? Parenzo dice delle stronzate ogni tanto, mica è colpa mia. Scusatemi, Giovanardi, però lei non può continuare a dire che fumarsi uno spinello è come farsi una pera di eroina. Caro Giovanardi, non può continuare a dire... Fumarsi uno spinello per i ragazzi vuol dire... E lo ripeto, centesima volta, e lo sottoscrivo. Sì, ma non e può. Mi sfido con le neuroscienze a guardare. Non può dire che è uguale a una pera. Va a vedere i buchi nel cervello. Vabbè, d'accordo, cioè, però non può dire che è uguale a farsi una pera. Dunque, ci sarà una differenza. Tanto è vero che in Italia si può fumare lo spinello, si può pigliare eroina, si può pigliare cocaina ed è completamente depenalizzato. Allora, una cosa è leggera, una personale cosa. D'accordo. È esattamente. Depenalizzare gli spacciatori di cocaina, di eroina. Adesso si può anche coltivare, adesso si può coltivare. No, purtroppo i giornali italiani. È una stronzata, sì, l'ho capito. È una stronzata, l'abbiamo votato l'altro giorno. Semplicemente le industrie farmaceutiche che giustamente trattano cannabis per uso medico, che in Italia è consentito da sempre. Le famose multinazionali. Se nel momento in cui queste aziende autorizzate fanno qualcosa di sbagliato, hanno delle multe e non sono sanzionate penalmente, ma non... Chi fa lo spinello che ancora penalmente Perdere questa cosa. La falsa informazione poi porta qualcuno a pensare che adesso mi coltivo gli spinelli, poi quando lo vanno ad arrestare o lo sanzionano penalmente, dice: ma io l'ho letto sul giornale. Non si può adesso cominciare a coltivare la marijuana in casa? Assolutamente no. Beh, ma perché no? Scusi. Perché è vietato per lei. E secondo lei è giusto che sia vietato? Se volete aprire un dibattito. No, per carità, ma adesso, mentre stiamo parlando, purtroppo la stampa ha scritto una cosa totalmente sbagliata e oggi ha smentito in quattro righe. Libero ha scritto una cosa totalmente sbagliata e domani smentirà. Il Messaggero ci è andato dietro perché evidentemente qualche giornalista o qualche titolista non sapeva di cosa parlare. Un attimo solo, pubblicità, poi torniamo perché devo chiederle una cosa molto molto importante. Carlo Giovanardi, che dice di essere a Modena candidato sindaco, incredibilmente l'uomo del cambiamento. Però caro Giovanardi, sai che lei mi sta simpatico, però lei uomo del cambiamento, è una vita che sta in politica, è su, dai. Ammazza la zanzara, schiacciati le chiappe, la chiappa nera. Guarda la zanzara, incominciate a essere rincoglioniti, Ah, quello sicuro, guardi, signora Almirante, non c'è dubbio. Ultima raffica di domande, caro Parenzo. So che sei già là che friggi, no? No, sono più che altro... Solo in una cabina dentro questa sala dove c'è il convegno degli indipendentisti veneti è partita una musichetta che dovremmo mettere come sigla la zona perché è bellissima, che dice: il Veneto se una nazion, il Veneto se una nazion, e la nostra onestà, il nostro paese, il Veneto se una nazion. canti pure bene stasera, come mai? Che trovo molto bella e credo che anche Giovanardi dovrebbe venire qui a canticchiarla. Ma non credo, non credo che lo farà, perché non penso che voglia il Veneto indipendente, signor Giovanardi. I miei nonni sono in Bunollo, vengono da Fara Vicentina, quindi sono a rischio perché sono in zona indipendentista. Ecco. Però è modenese, per cui non credo che voglia Modena. Modena indipendente. I muratori, abito a Modena da quando sono nato. Però adesso il cambiamento, Giovanna, il cambiamento, adesso va bene tutto, sì. Va bene, no, come assolutamente. Una città che da 70 anni ha sindaco dello stesso partito. Ma lei vuole pure i voti dei grillini, su, dai. No, ho detto sicuramente quelli che hanno votato Grillo a Modena, come a Parma, perché non ne possono più di 70 anni degli stessi. E che devono fare? Voteranno per uno di Grillo, non è che voteranno per lei, Giovanardi. Assolutamente no. E chi è che ha votato per il grillino al ballottaggio a Parma? Ma quello perché volevate fregare la sinistra. Destra, che pur di non votare dopo 70 anni anche a Parma, il solito candidato della sinistra, vabbè, hanno voluto il cambiamento. Però Giovanardi, lei Modena ero democristiano quando questi signori mettevano i lumini davanti all'immagine di Stalin. Cioè? Io tutti gli anni c'avevo le feste dell'unità con Cuba, con la Cecoslovacchia, con l'Albania, con la grande patria, l'Unione Sovietica. Allora io sono sempre stato. Cioè lei dice, lei è il vero Don Peppone? No, Don Camillo forse. Cioè, scusi Don Camillo, ho fatto una. Ma io sicuramente voglio spiegare. Piccolo mischione. È il vero Don Camillo lei? Da 70 anni, credo che pochi posti al mondo, da 70 anni. Sì. Non abbiano mai avuto un minimo cambiamento del partito dominante. Forse c'è Modena, Reggio Emilia. D'accordo, però lo dica apertamente: io sono il cambiamento. Io sono assolutamente sì. Cioè, me lo dica proprio, è esplicita la cosa. Ha seguito la vicenda dei chioschi a Modena nel parco? No, Vero Toscani, Giovanardi, Sgarbi, Italia Nostra. Scusi un attimo, Giovanardi. Rispetto al degrado di una città, io sono il cambiamento. Cioè, lei dice, incarno il novello Don Camillo. Incarno un'alternativa a un sistema di potere che ha degradato, questo è il mio punto di vista. Io quando vengo da Verona e arrivo a Modena, senti modenese, am casca la ghegna. Che la faccia, perché vengo da una città, Verona. Vitale, di Verona. Vabbè, ma adesso Modena, la gente, se ha votato per 70 anni i comunisti, qualche motivo ci sarà, evidentemente amministrano bene. Su. Perché i grandi di Modena, pur dando magari il voto al Movimento Sociale Italiano o finanziando il Movimento Sociale Italiano a Roma, a Modena hanno sempre fatto l'appello a votare social comunista. Comunque guardi che prima di Pizzarotti c'era la destra che ne ha combinato di tutti i colori, la cosa, a Parma. Parenzo, a Modena non abbiamo corso questo rischio. Sei vivo? A Modena abbiamo corso questo rischio, cioè di governare. Un attimo solo, Parenzo, sei invito Giovanardi e tutti gli ascoltatori, sarà che sono entrato un po' nel clima, a sentire l'inno alla bandiera veneta, scritto da Beppin Segato, che è stato uno dei serenissimi. Adesso lo troviamo. Senta, La sorprende Giovanardi che in un programma di Rai 2 J-Ax, non so come diavolo si chiama, parli continuamente e canti di erba, marijuana. Il mondo è sempre stato pieno di cattivi maestri, molte volte anche loro ci hanno rimesso l'altro giorno proprio, sentivo sulla vostra radio l'elenco del club dei 27, cioè quelli che a 27 anni, grandi musicisti, forse per una coincidenza, sono morti per overdose o suicidi, no? Ma adesso non è che se uno fa una canzone sull'erba significa che è un cattivo maestro, come dice lei. Diverso. Sto dicendo che quello è un mondo pieno di croci nel senso di gente. Ma lei la sa di questa cosa di J-Ax? E quindi la sa le persone che per TV inneggiano o in qualche modo danno un messaggio di morte ai giovani possono essere grandi cantanti, ma hanno tutti il mio disprezzo. Cioè J-Ax, secondo il mio. No, d'accordo, secondo lei fare una canzone sull'erba o parlare di erba tranquillamente come una cosa che si può consumare qualcuno, è un messaggio di morte. È un messaggio di morte. L'erba, propaganda, l'erba, cioè propaganda presso i giovani, uno strumento che gli rovina e gli distrugge la vita, o grande rispetto è un criminale per chi lascia questo messaggio. E se canta, Rai 2, e se canta Rai 2 pure? Se fa parte di un programma di Rai 2? Che cosa ci posso fare? E che ne so io? Semplicemente registro che siamo arrivati a un livello tale per cui lo Stato deve spendere attraverso i CERT, attraverso le comunità, anche qui centinaia di milioni di euro sulla sanità per rimediare ai danni che derivano dall'uso delle sostanze. E va bene, poi ci sono i responsabili che propagandano queste cose. A me sembra come se qualcuno facesse canzoni inneggiando l'alcolismo, o facesse canzoni, sì, inneggiando l'alcolismo. Io credo che il vino si possa bere, ma se uno mi fa delle canzoni dicendo che è bello ubriacarsi, che è bello andare in giro la notte in macchina guidando i 150 all'ora, è un irresponsabile. Un attimo solo, un attimo solo che abbiamo il traffico, poi torniamo. È 800 24 00 24 per il gran finale, ma abbiamo un paio di cose ancora. Parenzo, che succede? Non succede niente, però da sti indipendentisti, chiamane qualcuno incazzato, sei lì in mezzo alla gente, chiamane qualcuno arrabbiato, incazzato come una bestia per quello che è successo, per questa retata, per questo processo ridicolo. Lo stesso Giovanardi dice che è una cosa patetica e ridicola questa roba qua contro i veneti, là, contro questi 24. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire David, perché affonda il petto. Che succede lì? Allora guarda, mi sono messo adesso, ti faccio vedere io cosa succede, mi sono messo con un telefono fisso. Signor indipendentista, può venire un secondo, se mi chiama un signor indipendentista un attimo. No, salve, sono con la zanzara. Mi chiami un amico, un compagno indipendentista che volevo fare un ragionamento approfondito qui con Cruciani, mi chiede un approfondimento, grazie. No, che approfondimento? Ma no, uno è incazzato, che approfondimento? Io ti dico io, se no tirano fuori stanche, aspetta un attimo. David? No, Mughini, no, fermo, Mughini, fermo. Aspetta, eccolo qui. Chi è? Beh, siamo al top qui, eh. Chi è? Beh, eccolo qua. Compagno indipendentista? Siamo in diretta alla zanzara, lei è? Brugnano Maurizio. Beh, è uno dei leader. Ma non è vero, chi tra uno dei leader assoluti della... Possiamo chiamarla della rivolta? No, ecco, della rivolta. Abbiamo detto, sì, aspetta un attimo, non mi faccio partire. No, della rivoltina, allora. Ma assolutamente. Della rivolta, della piccola rivolta. No, siamo democratici pacifici. Sì, però vogliamo, diciamo chiaramente... Lo Stato italiano va polverizzato. Diciamo chiaramente, sulle cose cruciali, che lo Stato italiano... ci ha stufato, questo si può dire almeno. Ma no, io non dico niente degli altri, io Cruciani, ma perché se la fa sotto adesso? E sono felice di essere Veneto, sono democratico e pacifico. E che pensa di quei signori che sono stati arrestati? Che le passo Cruciani che le Sì, buonasera. Buonasera. Che pensa di quei, come si chiama lei, scusi, nome e cognome, qui Maurizio, la polizia controlla. Maurizio Brugnara. Maurizio Brugnara non ha paura della polizia italiana? Ma io non dei carabinieri. Ho paura della polizia italiana. Non ha paura dei carabinieri, che ne so, vengono a casa, una perquisizione di notte, un'inchiestina. Ma, scusi, ma perché mi fa queste domande? Ma no, hanno fatto una retata, che ne so. Ma no, io non ho niente che a vedere con queste persone. Cioè, secondo lei lo Stato italiano va mantenuto così com'è oppure voi dovete... Ma diciamo che nella storia ci sono state tante evoluzioni di stati, eccetera, eccetera. Diciamo, quindi lei vuole l'indipendenza del Veneto. Essere ancora avanti. Lei vuole l'indipendenza del Veneto, si vuole staccare dall'Italia. Certo, io voglio l'indipendenza del Veneto. Staccarti dall'Italia. Ma in maniera democratica. Democratica, certo. Secondo le leggi. Incriminatelo pacificamente, naturalmente. Bravo, incriminatelo subito, dico io. Incriminatelo, dico ironicamente. Incriminatelo, avete sentito? Incriminatelo. Va bene, la ringrazio. No, ma guardi che sono dalla sua parte io, perché queste cose devono essere dette. Uno le può dire tranquillamente, senza essere accusato. Non vedo perché non dovrei dirlo, lo dico dappertutto, in tutte le E quelli le che parlano di armi? E quelli che parlano di armi e di carri armati? Non siamo noi assolutamente, io non saprei cos'è un'arma. Ma sono dei deficienti questi qua che parlano di armi, di carri armati? Ma io non do giudizi, perché caso non sono persone che io conosco, non ho mai conosciuto. E sinceramente io sono attorniato da persone molto pacifiche, democratiche, vabbè, e che rispettano la democrazia. Però allora, se uno parla di armi, lo dica apertamente, è un coglione quello che chi parla di armi. Ma io non do titoli perché non sono informato di cosa è successo. Vabbè, ma se uno dovesse parlare di armi, sarà la giustizia a decidere di conseguenza. Com'è prudente lei? Com'è no, prudente? io non sono prudente, io sono così. Vabbè, è così, certo, infatti secondo me è prudente. Grazie. Ma, non posso dare giudizi se non sono no, ma se uno dovesse... Ma no, autorizzato da chi? Uno deve essere autorizzato... Ma non informato, mi scusi. Da se stesso deve essere autorizzato. No, ma io non do giudizi degli altri che non conosco, in effetti. Vabbè, grazie, arrivederci. Buonasera. Grande prezzo! Allora, voglio chiedere a Giovanardi una cosa. Chi va, riprendendo il discorso di prima, chi va a prostitute in Austria e Svizzera? Tutti questi italiani, migliaia di italiani. Perché non ci vanno in Italia, semplicemente nella loro città, dove ne trovano una decina o centinaia. Lei li considera sfruttatori? Sfruttatori? Non ho capito perché devono andare all'estero. Perché ci sono i bordelli. Nelle loro città. No, perché ci sono i bordelli che sono comodi. Sono più puliti. Gli appartamenti dove trovano queste ragazze a Bologna, a Roma, a Torino, in ogni città italiana. Hanno bisogno di andare all'estero. Beh sì, certo, evidentemente ci sarà una ragione, no? Ah, non lo so, forse perché? Le ragioni, le follie, guarda, stiamo parlando dei venti. Stavo leggendo qua il giornale, quello che arriva... E dice, avrei versato tutto, potta a potta, non si parla di entusiasmo, si parla di combattimento. Quell'altro che dice... E allora? che avevano preso un cannone, cioè, secondo lei, chi va a moldavo e costruito da un tornitore bresciano. No, ma dire, il mondo, cioè, che secondo lei chi va a puttane Svizzera in Austria è matto? No, ho detto che se uno deve invece ce le ha nella sua città. Ma ho capito, ma se uno preferisce andare là, qualche motivo ci sarà. Fino in Svizzera o in giro per il mondo, vorrei capire che ragionamento. Ma perché non è la stessa cosa, evidentemente. Ma è un manifesto ideologico? Ma che manifesto ideologico? Ma quale manifesto ideologico? Ma semplicemente. Ma perché ci sono degli splendidi bordelli con le piscine, con le saune? È bellissimo, ci vada Giovanardi a trovare anche per visitarli, anche solo per visitarli. Ho già detto che un imprenditore che sfrutta il lavoro delle donne non mi sta bene. Vabbè, ho capito. Le donne che si autogestiscono come fanno qua e lo vogliono fare a casa loro hanno il diritto di farlo. E consiglio, chi non lo faccio, ma chi lo vuol fare, di non seguire i consigli vostri di andare all'estero. Come no? Ma di andare più comodamente nelle loro città. Ma ho capito, se però vogliono andare. Ma vieni sempre che visto. Anche dei soldi, vieni sempre visto male, eccetera. Senta una cosa, ho letto su Avvenire di oggi la testimonianza di un signore che è stato adottato da due lesbiche. E che poi dice a 13 anni alla fine avevo rapporti con uomini adulti, ero effeminato, del tutto confuso, senza un ruolo, amavo le ragazze ma ne avevo paura, eccetera eccetera. E questa è la fine che si fa se uno è adottato da una coppia gay, secondo lei? No, io so che adesso nelle scuole è la polemica. Vabbè, quello l'abbiamo, quello lasciamo perdere sta polemica. No, ma perché vogliono andare a dire ai bambini, con quel bambino lì, andare a dire ai bambini o alle bambine che non è vero che loro crescendo a 3, 4, 5, 6 anni avranno tendenze, orientamenti da femminuccio, da maschietti, da uomini, da donne. Non c'è il sesso, non c'è il genere, non esiste, è una sovrastruttura. Vabbè, della chiesa, ma secondo lei chi ha adottato? Quindi questo è l'esempio classico, come invece lui spiega che lui malgrado abbia avuto, l'ha letta anche lei questa cosa, sì, che malgrado abbia vissuto, alla fine ha scoperto di essere un uomo e che gli piacevano le donne. Però ho dovuto prima andava con gli uomini, eccetera. Ma perché prima forse la dice lui stesso nella sua, aveva fatto un po' di confusione. Ma si finisce male, secondo lei chi ha adottato? Ma io dico che quando uno va a casa, lo ricordo il nome del mio papà. Me lo dica. Che si chiamava Ugo. Ugo, sì. E trovo un altro che si chiama Ugo. Sì. E quindi a casa ha un papà che si chiama Ugo, una mamma che si chiama Ugo, tutti e due hanno la barba. Sì. E quindi non c'è una madre. Sì, che succede? Dice, ma uno con la barba che si chiama Ugo è esattamente uguale come dolcezza, come modo di fare della mamma. Vabbè, mi dicono, può io essere. Dico, ma voi siete matti. Può essere ma che uno è dolce come una mamma. Perché uno Ugo... Ma voi avete mai visto un soldato morire in guerra e invocare il, invece che la mamma invocare Ugo, invocare il padre? Perché l'avete mai visto? Perché in natura? Perché no? Ieri Scalfarotto, quando alle invasioni barbariche, ha detto: perché noi uomini, noi coppie, abbiamo anche dei bambini, mettiamo al mondo dei bambini. Certo. Ma nessuno invece da potere gli ha chiesto: scusi, Ugo e Ugo, come fate a mettere al mondo dei bambini? Beh, lo possono fare tante cose, come lei sa. Appunto, è andato a comprare le poveracce che devono fare la gestazione per loro. Beh, le poveracce, perché? Per trovare delle schiave. Ma perché adottarlo? Oppure ma in natura un uomo è un uomo, che non è una discriminazione che due uomini non riescano a fare un bambino. Ho capito, ma allora, risentiamo Scalfarotto però, risentiamo Scalfarotto di ieri. Dobbiamo governare l'Italia con me, e dentro l'Italia con me ci sono le persone omosessuali, e dentro l'Italia con me ci sono i figli delle persone omosessuali, esistono. Uno dice, ma io sono contrario, ma non puoi essere mica contrario alla pioggia. Se piove ti devi arrangiare, ti devi organizzare, e un governo si deve organizzare. Esistono i bambini degli omosessuali? Perché noi facciamo i figli come gli altri, è presente le api, il polline, uguale. Ecco, se, dato che noi abbiamo le gonadi, abbiamo tutto l'armamentario necessario per riprodurci, facciamo dei bambini, e questi bambini esistono in questo paese, cosa ne facciamo? Ma non mi pare che sia un discorso. Ma che cacchio dice, abbiamo le gonadi, ma cosa sta dicendo? Perché? Ma cosa dice? Perché? Ma come, noi uomini facciamo i bambini, abbiamo le gonadi, beh, è come piovere? Eh beh, certo, perché? Cioè, allora mettiamo due uomini lì, vediamo se come la pioggia, se da due uomini viene fuori un bambino. Ma no, ma non lo sta dicendo è questo. Com'è. Allora, se mi dici che quello con i soldi deve andare a comprare da una donna... No, oppure l'adozione. Deve oppure andare da un uomo a comprare gli semi, deve trovare una terza persona che faccia la gestazione, poi ci sono i due committenti, quindi un bambino nasce da cinque padri e madri, e poi abbiamo fatto un convegno alla Sapienza lunedì. Cioè, lei sta dicendo, lei sta dicendo che, quando fuori dalla che quando dice queste cose è una persona immorale, come si chiama, no, Scalfarotto? No, sta dicendo cose che sono totalmente contrarie al diritto naturale, alla natura, è fuori dalla natura. Come la pioggia è un fenomeno naturale, piove. Due uomini, ma anche l'uomo può mettere al mondo assieme un bambino, se non se lo comprano. Ma se un uomo ha avuto un bambino prima, e poi si mette con una ma sì, ha detto questo, ma è evidente che se c'è una coppia che ha avuto un bambino, e lei che vorrebbe fare? Ma questo è un altro discorso. Sono io, glielo vorrebbe togliere a questi. Sono io aver fatto la legge che tratta in vigore. Ma glielo vorrebbe togliere una coppia gay? Lei toglierebbe un bambino a una coppia gay? Sono stato io aver fatto la legge che parifica totalmente dal punto di vista dei diritti dei bambini, quelli che sono nati all'interno lei e fuori del vorrebbe matrimonio. Togliere quindi su questo sono assolutamente lei toglierebbe un bambino a una coppia gay? Ma quel sì bambino di cui stiamo parlando c'ha una madre? E allora? Perché quel bambino che dice lei magari è morta la madre, magari è morta, il papà si è messo con un uomo, che succede? Ma questo sta già accadendo perché i tribunali in quei casi bisogna toglierlo, che bisogna ma fare? Ma perché farà toglierlo? È figlio suo, scusi. E appunto. Ma un conto è che uno abbia un figlio e poi avere. Ma sai quante persone che hanno dei figli hanno altre relazioni, possono averle con gli uomini, possono averle con le donne, qui sta dicendo una cosa diversa, dice noi due uomini rivendichiamo il diritto di avere dei bambini, vabbè, e vanno a spiegare nelle scuole ai ragazzini, ai bambini di 3 anni, la mia nipotina che ha 3 anni, ci danno in mano il pinguino, il disegno del pinguino, con le uova, dicono due pinguini fanno l'uovo, due pinguini, cioè un bambino di una bambina di 3 anni, ho capito. Gli vanno a spiegare che vabbè, due non succede, uomini, dai. Due pinguini mettono assieme un altro pinguino. Io vorrei sapere il bambino di 3 anni che fa? Dice scusi, come fanno due pinguini a fare due, cioè due nasce volte? Un po' disturbato, dice lei, nasce disturbato. Secondo me io detto, nasce disturbato, sì. Nasce disturbato, sì o no? Giù le mani dai bambini quando uno è maggiorenne. Borsa, grazie Giovanardi, Borsa, pare. Borsa. Zanzara! Non vi abbandonerò mai. Tutta la notte. Non abbiate dubbi. E poi le macerie ce le prenderemo noi. C'è un altro provvedimento varato dal governo. Grazie a tutto. Cosa ti devo fare? Ti farò quello che vuoi. Ma che mondo è questo? Ma in che cosa sei riuscito a trasformarlo? Se non... Ma dico, ma possibile che siete così vecchi anche di pensiero? Uno degli indipendentisti agli arresti domiciliari, Orini, l'Italia deve essere polverizzata. L'indipendenza, tutta l'Italia dovrebbe essere polverizzata. L'indipendenza. Cannonate. No, ma che cannonate, dai. Se tutti i comuni, tutte le regioni fossero indipendenti, sarebbero tutti più contenti, mi creda, guardi. Oh, Pixie, Dixie, Fixie, che stai volando sulla mia mano. Pixie, Dixie, Fixie, se vuoi posarti fallo piano, piano. Pixie, Dixie, Fixie, per ogni spina che si ficca nel cuore, c'è una canzone che parla d'amore. Che ci consola del nostro dolore, che ci riscalda dal freddo che c'è. Oh, Pixie, Dixie, Fixie. Il bello è che pure è bravo, no, il signor Locasciulli, Parenzo, no? Per me è molto bravo, io è una delle canzoni, è una delle canzoni che preferisco, e per me ha anche ricordi romantici, quindi io non mi troverai mai ad attaccare il guarda che ci tratta come degli eversivi, Beh, ma ha ragione un po'. Ma ha ragione un cazzo, scusami. Cioè, un po' è vero. Ha ragione un cazzo. Anzi, devo dirti la verità, è vero, mi sono convinto anch'io, sì. Rispetto al politicamente corretto, rispetto alla banalità, rispetto alle cose banali, tristi anche se vogliamo, scontate, che ha scritto Locasciulli in questa cosa, l'ordine, ha scritto la legge, la legalità, parole, vuol dire, che poi devono essere riempite di significato, è vero, sì, siamo eversivi. Ma nessuno ci può arrivare. Però ti voglio dire... E allora voglio regalare a Locasciulli, voglio regalare al signor Mimmo Locasciulli una di quelle cose che l'hanno fatto andare in bestia ieri mentre ascoltava la Zanzara. Così scrive su Facebook il signor Mimmo Locasciulli, bravissimo, per carità, però quando scrive di queste cose un po' scontatino, ecco, non particolarmente eversivo. Invece noi sì, hai ragione, siamo eversivi, almeno io mi sento da questo punto di vista eversivo, caro Locasciulli, mi sento eversivo. perché posso tranquillamente dire in un paese libero che questa inchiesta, e lo dico con grande rispetto per le autorità politiche, civili, militari, che questa inchiesta mi pare una buffonata, questa inchiesta sui secessionisti veneti. Detto questo, regalo a Locasciulli lo sbrocco più significativo di Marione Borghezio, quello più forte, quello più significativo, quello più denso, dove usciva fuori il vero Borghezione. Ci consola del nostro arriva e ci riscalda dal freddo che c'è. Il popolo, quando gli rompono i coglioni, il popolo tira fuori quello che deve tirar fuori. Il popolo non si limita a votare quando gli rompono i coglioni. E qui ho l'impressione, detto con molta calma, con molta riflessione, che ce le hanno rotte in maniera immensa, che in Veneto hanno pestato i coglioni al popolo veneto. Beh, io dico che quando nel mondo la canaglia impera, la casa dell'indipendentista è la galera. Sono invidioso di non essere in galera con loro e andrò a trovarli al più presto, perché questi sono cittadini onesti e per bene. Non sono altrettanto certo di coloro che li hanno mandati in galera. Loro sono per bene, loro sono onesti, loro sono coraggiosi, loro sono gente con le palle, a differenza di quelli che dietro una scrivania pretendono di mettere il bavaglio a chi parla di libertà. Che ci tira su, piccola dolce selvaggia malinconia, vattene via. Emanuele da Ferrara, buonasera. Buonasera Cruciani, innanzitutto dica. Solidarietà ai ragazzi del Veneto. Ma solidarietà che vuol dire? Noi non esprimiamo alcuna solidarietà. Qui esprimiamo le nostre opinioni, ma noi, dico noi, lei può fare quello che vuole. Incarcerati del Veneto, che per me lei, giustamente detenuti. Se lei pensa qui. Di voler di dire questa cosa qua, la dica. Però sono con loro, nel senso che in parte mia, secondo me è una buffonata, perché insomma non è accaduto nulla. Però volevo ricollegarmi a Giovannardi, che per me dice cose molto serie, anche se lei lo attacca sempre praticamente, e volevo sottoporre un quesito. Se io mi faccio uno spinello e me lo sono fatto, sì, non sono lucidissimo, non posso dire di essere una persona lucida, e mi metto in macchina. Questo può capitare anche a un ragazzo di 18 anni che si è appena fatto due razzi e si mette in macchina. Faccio un frontale. Ci sono le leggi, ma ho capito, di rispettarlo. Ma se non la si droga può evitare... è illegale. Non possiamo fare differenze, ma tu ti fai uno spinello, io no, ma Giovannardi si può, non si può. Se non si può, non si può. No, a parte che non è vero che non si può, cioè non si può guidare sotto effetto di sostanze stupefacenti. Sì, vabbè, e allora a tutti cosa diciamo? Vabbè, quello se n'è andato, va, Parenzo se n'è andato. No, sono qui. Oh, ecco, che ne so, ti sentivo là, ti stai aggirando intorno, che succede lì? Guarda, volevo dirti che è appena arrivato, ma non mi permettevo di passarlo in questo augusto consesso, l'avvocato Morosin, che è il leader, tu direi chi se ne frega. No, è l'avvocato Morosin. È il leader di Indipendenza Veneta, nonché l'avvocato del signor Contin, che è quello che attualmente ha i domiciliari, quello a cui hanno sequestrato il signor Tank, ad esempio. Ah, quello che ha riacquistato il Tank del 97. Questa storia straordinaria del signore che riacquista il Tank. Anche questo potrebbe essere interessante da analizzare, secondo me, da un punto di vista anche clinico, oltre che... soprattutto dal punto di vista clinico. Sai, io vorrei dire... Se uno già uno ha costruito un tank, va bene, da un trattore. Sì, sicuramente. In più fa già un po' di galera, poverino. Sì, in più, dopo anni, usa 6.000 euro, che non è bruscolini, almeno per me 6.000 euro sono una bella cifrettina, no? Certo. E li usa per ricomprare, attento, perché questo è interessante, il cosiddetto tank, cioè un trattore mezzo tanco, rotto. Tanco. Sì, e lo rimette in un garage. Sì, certo. E ci fa andare su i nipotini, perché anche questo lui ha fatto, perché lo considera un genio. Ecco, sai, io questo, caro amico Cruciani, non saprei se definirlo esattamente un reato. No, neanch'io. Io lo definirei un caso psichiatrico, come io minimo. Io lo definirei diciamo che è un'intelligenza complessa quella di questo signore, che ha usato 6.000. Tu con 6.000 euro, posso chiederti questo? No. Acquisteresti mai un trattore detto tanco? No. Assolutamente, 6.000 euro, guarda, hai mille stranezze, ad esempio. Mille stranezze, addirittura, da questo punto di vista, no, con 6.000 euro. Non so quanti ascoltatori lo farebbero. Non faccio acquisti pazzi, non c'è dubbio, anzi, sono anche piuttosto attento negli acquisti, come dire, no? Come sai. Certo. Cari amici, collegamento con la Sardegna, perché qui c'è un altro indagato, credo. Non so se sia indagato, perché ormai non si distingue più nulla, però sicuramente è molto amico di uno arrestato. Amico, in realtà non lo sente da un po' di tempo, forse da un anno. Perché, sai, caro Parenzo, non hanno messo al gabbio solo i veneti, hanno messo al gabbio pure un sardo, un tale che si chiama Pani o Pane, anzi sì, Pani, Felice Pani. Beh, uno dei leader degli indipendentisti sardi storici si chiama Dodore Meloni. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come andiamo, Salvatore? Io vado benissimo. Senta, ma lei era amico, conosceva benissimo questo Pani, no? Se non sbaglio. Sì, sì, sì, sì, lo conosco. Ma non lo sentiva però da un po', da quanto? Da un anno e mezzo. Ma come mai? Perché erano successe delle faccende che non mi andavano bene e allora l'avevo mollato. Perché? Che cosa aveva detto? Che voleva saltare, che come mi ricordo, qual era la storia? No, non deve saltare niente. No, ho capito, lui voleva. No, lui non voleva fare nulla di queste cose qua. E perché avete litigato? Ma non è che abbiamo litigato, in politica ci si divide tranquillamente per mille ragioni. Vabbè, lui era più estremista, diciamo, da un certo punto di vista, no? Ma non lo so, estremista in che senso? Sta rivolta armata la voleva fare, sì o no, insieme a questi altri? No, no, ascolti, il Pane che io conoscevo era uno che all'isola di Maluentu, sì, gli avevamo fatto lo scherzo una notte di averlo fatto uscire, siccome l'isola è buio, c'eravamo solo noi, avevo fatto vestire un lenzuolo bianco ad uno, lui era uscito per fare i suoi bisogni, e quello lì aveva detto dalla notte. Lui non usciva più fuori perché aveva paura dei fantasmi. Cioè? Per cui aveva paura, perché siccome lì a Maluento c'era un vecchio convento di frati, centinaia di anni fa, e allora? E si mormorava che ci fosse un fantasma, dei fantasmi. E lui aveva paura. E lui aveva paura anche di queste cose per qua. Per cui figuriamoci se uno che può organizzare colpi di Stato, dice No, colpi di testa. Al massimo colpi di testa, pure. Faceva anche il calciatore poi, oltretutto. Vabbè, questo anzi potrebbe essere una cosa a suo svantaggio da questo punto di vista, no? A suo svantaggio, certo. I calciatori non è che siano dei geni di cervello, no? Ah, lei dice da questo... Ragionano con i piedi. Ragionano con i piedi. Ma vuol dire, è mezzo matto sto Pani o no? No, no, ma io... Il guai è che non sappiamo niente di che cosa è accusato, perché qui si vive tutto nella nebbia. Ma hanno perquisito pure casa sua, Meloni? Sì, certo. E che hanno preso? Cosa hanno preso? Le bandiere. Le bandiere. Mi hanno preso una bandiera di leader Serenissima. Pure. Un fazzoletto dal collo sempre della Serenissima. Due di quegli affari che loro ci hanno in stoffa, ricamato, il coglione. E che l'hanno presi a fare? E che ne so, mica sono quando si parla della giustizia italiana non è che siamo tutti lì, che sappiamo cosa combina e cosa non combina. Ma che hanno preso pure un cellulare? No, mi hanno preso un cellulare con i due numeri, quelli che avevate anche voi, sul coso, e poi mi hanno preso se l'è rifatti subito. E poi mi hanno preso un documento che era stato firmato il 26 di maggio del 2012, lì in quel famoso pranzo. Quello fatto a Brescia con gli indipendentisti, cioè. Sì, quello con la polenta, gli osei, quelle cose lì. Vabbè, ma lei è una cosa, questa operazione qua è una cosa da barzelletta, mi dica la verità. Ma io, guardi, a me mi stupisce tutto questo, perché questa cosa qui, se dico che sono partiti da questo pranzo del 26-5, sono usciti ieri venendo alle 5 del mattino a fare questa sceneggiata, io penso che se l'hanno potuto risparmiare, per la semplice ragione perché i veneti a questo punto hanno ragione di volersi andare da via da questo stato. Tanto quello se ne vuole andare pure lei dallo stato italiano. Ma io non ci sono mai stato, se devo essere sincero. Sardo. Ma lei che sono cos'è? 800 miglia di acque territoriali per andare lì da voi, che me ne frega a me dell'Italia. Vabbè, lei però è in Italia, non è, c'ha il passaporto. No, io non sono in Italia, sono Parenzo, in Sardegna. Glielo dici tu che stai in Italia, Parenzo, al signor... No, ovviamente siamo in Italia, però bisogna dire che lui, come molti sardi, cioè l'indipendentismo sardo ha una storia antichissima. Cossiga, che tu ricorderai, il presidente emerito Cossiga. Vabbè, non è che era indipendentista Cossiga. No, ma aveva un certo amicizia e flirt con i movimenti. E sì, veramente. Ma voi non c'entrate niente? Alta al tempo, non incominciamo a invadere il territorio nostro. Allora, il discorso è semplicissimo. Cossiga era uno che difendeva gli indipendentisti corsi, gli indipendentisti baschi e i sardi no, catalani, Lui però dentro di sé era sempre in un certo senso stato presidente della Repubblica Italiana. Lui quando è stato sepolto si è fatto seppellire con la bandiera dei quattro amori, che è la nostra bandiera, sopra la bara. Ma scusi, morto però. Scusi un attimo, ma voi c'entrate qualcosa con l'Italia o no? O non c'entrate niente con l'Italia? Con l'Italia io mi sono obbligato perché mi hanno detto che devo avere i documenti con timbrati dall'Italia. E invece? Ma invece non è così, perché io alla fine dei conti non mi sento. Ma siete più evoluti dell'Italia, siete arrivati prima in molte cose rispetto all'Italia. Ma l'Italia secondo me non è mai esistita, l'Italia è un'entità territoriale, non è un'entità politica. Ma quando mai l'Italia è stata un'entità politica? Basta vedere che se uno chiede a un siciliano, gli dice tu sei italiano, e lui dice sì, Clusugno. E il Veneto dirà sono Veneto, i piemontesi diranno che sono piemontesi, mi sono Lombard, mi è questo, mi è quello, mi è quell'altro. Quando diavolo è mai esistita l'Italia? Ma che ne so, io non e ce allora l'Italia è stata fatta con le baionette. C'era non ci capisco di base, se non ci fosse stato Nelson con le navi inglesi, con le cannoniere, ma quando mai avrebbero sbarcato lì a Marsala? Scusi, ma Parenzo, stiamo parlando con un signore che dice di essere il presidente della Repubblica di Maluento, no, dell'isola certo. Di Maldi. Parenzo, Parenzo. No, ma per me può essere presidente chiami tu. Di qualsiasi Repubblica, mi va benissimo, mi fa piacere. Chiamo spero. Io, va, ci sentiamo domani 18:30, chiamo io. No, a me piacciono i mostri, a me piacciono i mostri, io voglio Borghezio, io voglio tutti i mostri, guarda anche Peppe Fetish, tutti i mostri possibili e immaginabili devono passare da qui. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sono tempi duri, Radio 24. La passione si sente.